senza nessuna pretesa, poi assieme discuteremo diciamo della situazione un po' di Como dopo le elezioni. Allora, come Sinistra Ecologia di Libertà abbiamo pensato di fare questo momento di discussione sulla una piccola analisi un po' delle elezioni e capire un attimo quale prospettiva si può aprire o si apre per la sinistra a Como dopo il risultato elettorale. Io non sto a spiegarvi il risultato elettorale perché sappiamo tutti come è andato. Un unico dato che però bisogna, sul quale bisogna riflettere, che già in alcune discussioni sul giornale eccetera è stato affrontato, è un po' la questione del fatto che la sinistra nel Consiglio Comunale ad oggi non è rappresentata. Io prendo per sinistra tutte quelle forze che si pongono a sinistra del Partito Democratico, perché ritengo che il Partito Democratico faccia parte del centro-sinistra. Questo è un dato storico, perché penso, io non sono di Como per cui non so dirvi, ma penso che sia la prima volta che a Como la sinistra in Consiglio Comunale non sia rappresentata, nel senso che noi abbiamo all'interno del Consiglio Comunale dei rappresentanti della lista PACO-SER, chiaramente con dei connotati di sinistra, però diciamo non c'è un riferimento diretto a quelli che sono i vecchi partiti, diciamo così, che facevano parte della tradizione della sinistra. Questo è un dato, secondo me, abbastanza significativo sul quale è opportuno riflettere. L'altra questione che noi come Sinistra Ecologia e Libertà vogliamo discutere un attimo è un po' capire noi come partito se riusciamo a riaggregare intorno ad un tavolo, intorno ad un momento di discussione, di nuovo queste forze, in modo tale, se è possibile, di riuscire quantomeno a portare all'interno del Consiglio Comunale, attraverso i rappresentanti delle liste che sono stati eletti, almeno una serie di contenuti sul quale aggregare tutte quelle forze di sinistra. Io sto parlando in particolare di tutti quei contenuti legati ai beni comuni, legati alla difesa del welfare, legati ai discorsi ambientalisti, tutela dell'ambiente, legati eventualmente anche ai discorsi di diritti civili. Queste, secondo noi, dovrebbero essere quelle tematiche principali attorno al quale riuscire ad aggregare, riaggregare la sinistra in modo tale che è possibile portare all'interno del Consiglio Comunale queste esigenze, tenendo presente che poi anche le altre liste che sono presenti, questo compito già se lo sono presi proprio istituzionalmente. Ecco, questa è un po' la situazione. Prego. Questa è un po' la situazione di Como e per cui sarebbe opportuno che cominciassimo a discutere di questa cosa. Io ho letto su Ecoinformazioni tutte queste serie di articoli che già aprivano il dibattito in modo tale da riuscire a capire come mai c'è questa situazione, che devo dire a Como ha raggiunto questo fatto di non avere dei rappresentanti, ma che però è una situazione un po' comune, io direi, nella fascia pedemontana. Per quanto riguarda invece Sinistra Ecologia e Libertà, come dicevo, parlando anche del nostro partito, devo dire che poi magari con Tino Magni avremo meglio un quadro a livello regionale. Io vi posso dire che il risultato che abbiamo avuto alle amministrative è un risultato positivo, nel senso che in dati assoluti Sinistra Ecologia e Libertà ha praticamente raddoppiato i voti che ha preso, questo in un contesto in cui tutti gli altri partiti diminuivano i voti in termini assoluti. Questo secondo noi è un dato che fa ben sperare anche in prospettiva di quelle che potranno essere le scadenze elettorali che ci troveremo ad affrontare di qui a di più ad un anno, sicuramente la scadenza elettorale politica, ma non è detto che non avremo, come avete potuto seguire anche sui giornali, il fatto che ci sia anche la scadenza elettorale riguardante la regione. Per cui io non ho altro da dire, io mi auguro che poi in questo momento di discussione riusciamo un po' a cominciare a sbozzare questo ragionamento sulla somministrazione. Io non so, darei la parola alla Celeste magari per dire un po' l'esperienza che abbiamo fatto come cioè assieme a Parco, perché come sapete a Como abbiamo questo esperimento, come l'abbiamo chiamato, proprio un esperimento di vista. Ciao. Di vista. Innanzitutto direi che stato d'animo di dire che a Como le cose sono cambiate, per cui sono ancora in un clima in cui mi sento molto soddisfatta, nel senso che era impensabile anche per le nostre politiche che in un posto dove la volta scorsa non c'era stato nemmeno bisogno del ballottaggio e il sindaco di PDL aveva vinto al primo turno con il 60% dei voti, era impensabile che arrivassimo a un risultato del 75% come questo. Quindi questa cosa, come prendete, per una incredibile festaiola. Abbiamo ancora da verificare come lavoreranno, però è evidente che le prime mosse sono delle mosse abbastanza significative. Intanto, per smentire subito Eugenio, ieri nell'intervento il nostro consigliere comunale, che fa un ringrazio per essere qui, capogruppo di Pacosella, Luigino Nessi, Luigino ha appunto detto che voleva rappresentare all'interno del Consiglio la sinistra e che la parola sinistra non è una parola sinistra e quindi la sinistra in Consiglio, non è sinistra, penso. In Consiglio la sinistra sono stati anche attenti tutti però. Quindi in Consiglio per fortuna la sinistra c'è. Lo scopo del nostro incontro di oggi però era quello, appunto, come diceva Eugenio, di iniziare a discutere anche al di fuori di quella che è la rappresentanza in giunta e la rappresentanza consigliare, iniziare a discutere di che cosa è, che cosa può essere la sinistra Como ora, dopo che queste elezioni si sono svolte, perché come giustamente dice Eugenio, le sinistre si sono presentate divise, l'unica forza di sinistra presente all'interno della coalizione è stata appunto questa esperienza di SEL fatta insieme a Paolo, che è un progetto della sinistra Como. Anche lì mi sento di dire a chi non ha frequentato Paco negli anni passati o a chi la conosce soltanto dall'esterno che Paco, che è nata 18 anni fa, non è mai stata, non si è mai voluta considerare una lista civica, ha sempre ritenuto di essere una lista di cittadinanza politica. Una lista di cittadinanza politica non è soltanto una questione puramente terminologica, una lista civica è una lista che in qualche modo cerca di rappresentare la società civile di cui dove ci possono essere i migliori professionisti, rappresentanti rappresentanti di associazioni varie, Paco ha sempre pensato che voluto essere un luogo di rappresentazione della cittadinanza attiva, che è una cosa che fa, secondo me, la differenza. E, detto questo, riprendo da dove abbiamo lasciato, alcune forze di sinistra non sono rappresentate all'interno del Consiglio Comunale e naturalmente noi vorremmo cercare intanto di raccogliere anche le loro idee e poi ne parlerà magari Luigino più estesamente, trovare come queste idee anche non maturate all'interno della nostra esperienza FACOSEL possano trovare una rappresentanza, visto che altri sono stati esclusi dal Consiglio. Ma dicevo ancora di più che vorremmo ragionare anche su che cosa può essere la sinistra a Como anche al di fuori delle aule consiliari nelle strade, nelle piazze, in tutti i luoghi dove la sinistra ha bisogno di manifestare proprio e di costruire insieme un proprio progetto politico. Per cui l'assemblea di stasera vuole essere un'assemblea proprio aperta a tutta la cittadinanza, aperta sicuramente anche agli altri soggetti politici, ma in qualche maniera vuole essere anche un momento in cui iniziamo a costruire un tavolo tra noi per discutere di quello che vorremmo fare, indipendentemente, sicuramente non in contrasto, ma indipendentemente da quello che poi svolgeranno i rappresentanti che abbiamo eletto a rappresentarci all'interno delle istituzioni. L'altra cosa che volevo dire, questa riguarda invece SEIL, la dico da neo iscritta e con la consapevolezza che SEIL è nata in un momento un po' particolare, nel senso che SEIL è nata da meno di 2 anni, quindi è ancora, per essere un partito veramente un partito neonato, ed è nato in un momento in cui c'era una fortissima crisi dei partiti già in atto, perché in qualche modo si erano già manifestate e ora si sono manifestate maggiormente delle difficoltà dei cittadini e delle cittadine a riconoscersi nella forma che i partiti hanno assunto e nel fatto di sentirsi chiamati e contati solo nei momenti in cui ci sono delle campagne elettorali. Perché dico sentirsi chiamati e contati? Perché la legge elettorale nazionale con cui andiamo a votare, con cui ahimè rischiamo di andare a votare ancora una volta, dà a un'oligarchia di partiti la possibilità di scegliere le proprie liste e quindi di fatto di scegliere anche le persone elette. Questa cosa rappresenta uno svuotamento di diritti di cittadinanza e di democrazia che evidentemente le cittadine e i cittadini italiani vivono con molto fastidio. Dicevo che SEIL è nata in questo momento particolare per dire che praticamente ha suo malgrado, pur avendo detto fin dal primo congresso che non voleva essere un partito, ma qui le metafore calcistiche si sprecano anche data la partita di ieri, ma che voleva giocare una partita, è stata vissuta un po' anche da me come l'ennesimo partito, tant'è vero che c'è stata una certa diffidenza e soltanto quando si è visto che in qualche modo le forme che SEIL vuole dare alla politica sono delle forme differenti, c'è stato un avvicinarsi di persone anche a Sinistra Ecologia e Libertà. Questo per dire che facendo questa campagna elettorale, forse anche un po' prima, si è visto che anche a Como c'è una fortissimo desiderio non tanto di essere ascoltati, ma di attivarsi veramente. Tanto è vero che questo risultato politico così alto è stato motivato dal fatto che ci sono state tante donne, tanti uomini, tante ragazze, tanti ragazzi che hanno voluto proprio impegnarsi in prima persona. Impegnarsi in prima persona a costruire il programma, impegnarsi in prima persona a fare la campagna elettorale, impegnarsi ancora adesso in prima persona a campagna elettorale conclusa con questa grande vittoria a continuare a partecipare. Questo vuol dire che pur nella delusione presente, che è molto forte in tantissime cittadine e cittadini italiani e anche cittadini e cittadini comaschi nei confronti della politica, dei partiti, anche della politica istituzionale, e ovviamente i motivi di malcontento sono molto forti e sono anche molto motivati, esiste comunque un gruppo vasto di persone che vuole riprendere a costruire, inventare il proprio futuro. Queste persone che vogliono riprendere a costruire e inventare il proprio futuro non devono essere deluse, naturalmente non si esauriscono in quelle che sei già riuscita a intercettare, che ancora sono ancora pochissime, ma proprio per questo noi vogliamo con una forma che ci differenzi da tutti quanti gli altri, non essere un luogo chiuso e essere aperti anche a chi decidesse, ahimè, suo malgrado, di non iscriversi. Ci ho detto, comunque l'invito è, visto che Sella Como sta muovendo i primi passi, anche a dare una concreta mano a chi condivide lo statuto che è molto bello nel nostro partito, anche a fare questo sforzo di riconoscere che in questo momento il partito in campo, sia a livello nazionale ma direi anche a livello locale, di sinistra, che può dare una rappresentanza a tante idee, a tanti desideri, a tanti progetti, è Sinistra Ecologia e Libertà. Siccome io ho, come dicevo prima, non vengo da nessun partito e quindi ho avuto relazioni a sinistra con molte persone, con molte associazioni e anche con alcune forze politiche, mi arrivano continuamente, ancora adesso, delle richieste di chiarimenti, persone che dicono ma voi Vendola si è addirittura schierato con Casini, come la mettiamo con questa con questa forma di opposizione troppo morbida. Io vorrei che fosse chiaro, secondo me Vendola l'ha chiarito in molte circostanze e anche ieri nelle due interviste che ha rilasciato a due importanti quotidiani nazionali, il Manifesto e l'Unità, che le differenze sono molto forti comunque nei partiti di centrosinistra. L'immagine che io non so ripetere con altrettanta capacità di Vendola, che è anche molto capace nella retorica, ma comunque rispetto a Monti lui si è espresso così: Sinistra Ecologia e Libertà è contro Monti, il progetto di Sinistra Ecologia e Libertà è contro le politiche di Monti. Le politiche fatte attualmente dal PD di Bersani sono politiche che vorrebbero andare oltre Monti. Quelle che in questo momento fa Casini e quelle che progetta Casini per il futuro sono delle politiche che vedono ancora Monti attivo politicamente. Questa è una differenza reale. Come si può fare una coalizione che tenga dentro queste tre opzioni assai diverse? Evidentemente se le opzioni rimangono queste, una coalizione non si può fare, e allo stato dei fatti siamo qui. siamo qui nazionalmente e qui poi ci verrà in soccorso con dei dati e con la presentazione delle campagne in corso di Romagna che è con noi e che è il rappresentante regionale di SEL. E siamo qui con le nostre difficoltà anche a Como, perché è evidente la nostra soddisfazione per l'elezione di Mario Lucini è grande, che siamo tutti molto contenti di questa vittoria che è andata oltre ogni più rosea speranza, però non possiamo nasconderci che l'unico pezzetto di sinistra presente all'interno di questa coalizione eletta è rappresentata appunto da Luigino Nessi, consigliere di Papo Seil, che si riconosce esplicitamente nella sinistra e da poco altro, perché anche all'interno del PD non tutte le persone elette all'interno del PD si riconoscono in un progetto di sinistra e sono molte quelle che invece si riconoscono di più in un progetto di centro. Quindi a Como siamo in questa situazione, certo. Per fare in modo che questa sinistra venga rappresentata abbiamo bisogno che questa sinistra abbia delle gambe, che non abbia delle gambe soltanto all'interno del Consiglio, che abbia delle gambe in città, perché soltanto se la sinistra si rafforza nella sua azione politica quotidiana, anche chi abbiamo eletto in Consiglio avrà da portare all'interno di quel palazzo che finora si è disinteressato indegnamente della polis, avrà da portare dei progetti costruiti insieme, delle cose da dire. Quindi direi che possiamo cominciare subito a discutere quando magari quando ognuno c'è il tempo. Luigi, scusami se io faccio l'Urbegna, perché ho detto che non c'è finito. No, più riflettendo. No, io vorrei, prima di tutto, ma personalmente, l'ho detto anche ieri sera in intervento, ma grazie a tutti gli elettori di SEL, oltre a quelli di Paco, che rappresentati siamo in due, no? Sinceramente, personalmente, mi dispiace per Celeste, perché pensavo che entrasse anche lei. Il consiglio di ieri è molto soddisfatta di non essere stata in mezzo. No, poi dobbiamo dire che c'è anche l'assessore, che Bruno, penso che non abbia senz'altro, Bruno Magatti, che è assessore tra l'altro ai servizi sociali, che secondo me è una, oltre all'ambiente, che senz'altro sono in specie il primo nella situazione attuale, un tema durissimo da affrontare, senz'altro non ha idee centriste, insomma, penso proprio che molti non gli piace. No, poi per onestà c'è anche Servettini, amo la mia città, penso che è la consigliera di sinistra, adesso forse sul piano nazionale con lui lo conosco poco, oltre di fama ci siamo incontrati poco, perché lui tra l'altro aveva già le ferie programmate, questa settimana non c'era. No, comunque è importantissimo quello che ha detto Celeste, che ci sia una rappresentanza anche nella città, insomma. Sinistra ora forse a meno non è più magari la, sebbene è sempre da non sottolineare, perché adesso sinceramente anche nella situazione nazionale come è trattato il lavoro, che è una delle cose più sacre che abbiamo sempre avuto e che abbiamo, ma è anche soprattutto i diritti per tutti, no? Io rapportandomi a Como, quello che magari dal Consiglio, a parte, ripeto, la voce di Paco Sell, non abbia nessuno, abbia letto niente per il blitz che c'è stato a danno di extracomunitari, di persone che sono qui a cercare di stare al meglio, insomma, secondo me è un segno non molto bello. Insomma. E poi però occorre veramente tornare in mezzo alla gente per far sì che al comune vengano poi recepiti tutte queste idee, perché sennò vi confesso che era molto più bello, più facile, più comodo stare in minoranza, insomma, adesso perché la maggioranza, anche vero, poi vabbè, adesso condivido anche l'avere l'assessore nostro su certe tematiche, devi anche rispettare certi passaggi, devi anche dialogare, non puoi andare lì come magari facevo una volta, sparare a zero contro, devi purtroppo rapportarti con, cioè sarebbe da irresponsabili, specie attualmente, anche perché occorre poi costruire assieme, in primi tempi specialmente, creare divisioni in una situazione bella, con una maggioranza enorme, ma sapete che anche le maggioranze più enormi, se si comincia a creare delle crepe, dopo si sfaldano subito, insomma, mi sembra di aver un sacco di esempi. Quindi secondo me veramente occorre ricostruire, cominciare a lavorare in mezzo alla gente per portare avanti certe idee che dopo i consiglieri comunali così possono proporre all'interno di chi appunto gestisce la città, e oserei dire, questo lo posso dire, meno male che siamo noi stavolta, diciamocelo anche felicemente, no? Anche perché è stato fatto, e quello devo senz'altro non disperdere tutto quel lavoro notevole che è stato fatto dei gruppi in cui la sinistra è molto rappresentata, sarebbe un po' da poni. Quindi va rivitalizzato secondo me tutto quel discorso di aggregazione, di impegno e di lavoro che è stato fatto prima delle due tornate elettorali. Prego. Sì, ti chiami così. Allora, innanzitutto le presentazioni. Io mi chiamo Luca Frosini e buonasera innanzitutto ai presenti. No, io, come la mia presente collega Valeria Lavecchia, proveniamo da un'esperienza che il problema della sinistra divisa l'ha vissuta, diciamo, sulla propria pelle. Infatti ne abbiamo partecipato a questa tornata amministrativa sotto il simbolo di Sinistra per Como. Sinistra, no, per Como? Sinistra per Como, con Donato Supino. Ah, ho capito. Scusa. No, figurati. No, figurati. No, beh. Io ovviamente, come avete già detto voi negli interventi prima, sono anch'io ovviamente molto soddisfatto che finalmente la nostra città sia un po' cambiata, anche se come inciso provocatorio dico che una stensione così alta significa che il lavoro da fare è ancora tanto, purtroppo, e che portare la sinistra nelle strade, nelle piazze sia un qualcosa da fare assolutamente, anche perché purtroppo come di partenza ha un humus più tendente magari all'altra parte, quindi bisogna fare un lavoro di convincimento maggiore. A questo punto, come diciamo presentazione, tra virgolette mi scuso di aver, come dire, approfittato di questa occasione per dirlo, noi di Sinistra per Como pensavamo che fosse necessario costruire un nuovo soggetto, mi spiego meglio, non mi spaventavo innanzitutto, un soggetto dal nome Work in Progress, diciamo, omonimo ancora Sinistra per Como, che si preoccupasse di presentarsi con qualcosa di nuovo, aperto a tutti, aperto a ogni tipo di soggetto, senza alcun tipo di, come dire, problema o pregiudizio politico. Lo so che i rapporti tra i vari partiti anche all'interno della sinistra comasca non sono mai semplici, purtroppo, da poco parlare in realtà, però siamo sicuri che si possono superare, anche per rispondere in modo più veloce, più pronto a certe cose che accadono nella nostra città, come ha ricordato lei. Tu, dai. Scusa. Sono vecchio. È la mia educazione, diciamo. No, beh. Sì, no. E diciamo, come hai detto tu, questa cosa in Vesca da Brindisi, se non mi sbaglio, che in effetti purtroppo è una cosa brutta e grave, perché sono persone che vengono qui alla ricerca, tra virgolette, di un sogno, scusate, inciso un pochino letterario. E no, appunto questo, noi invitiamo, come voi avete invitato noi, tra virgolette, a discutere anche in questa sede, si sta per come appunto. Adesso ci stiamo un po' sistematizzando, però abbiamo già in programma alcuni eventi per il mese di settembre, soprattutto sul tema della tangenziale est, che diciamo è stato tra l'altro oggetto di una seduta che ho partecipato in neo la settimana scorsa, e proviamo tutto questo. Pensiamo che possa essere qualcosa di nuovo e che possa essere utile a tutta la sinistra, e oserei dire a tutta la città. Grazie mille. Se posso dire soltanto una cosa sulla risposta velocissima. A parte questo incontro che noi abbiamo rivolto alla cittadinanza, dal punto di vista proprio più formalizzato, io sono anche una delle portavoci della lista Paco Sella, stiamo organizzando anche degli incontri proprio con le forze politiche e quindi sicuramente incontreremo appena torna Sorrino anche voi. No, scusate se ho preso un po'. No, va benissimo, è giusto proprio la modalità giusta, quella di conoscersi e di dirsi. Certo. Esplicitamente chi si è. Potrei intervenire. Dunque, pare che l'epicentro della discussione di stasera sia se la sinistra a Palazzo Cernezzi sia rappresentata o meno. Allora, tesi di Setti parrebbe di no. Tesi più ottimista di Celeste parrebbe di sì, Luigino Nessi si autocandida a rappresentare la sinistra con un certo ottimismo anche mio, per la verità, conoscendo Luigino. Devo però dire che il Consiglio Comunale, nell'attività di campagna elettorale delle forze politiche e anche di Paco trattino Sell, molto Paco poco Sell, e poca sinistra Comasca, non si è vista o è del tutto scomparsa la militanza di tipo sindacale, lavoro, movimento, eccetera. Cioè, alludo al fatto che in questa sala circa 20 giorni fa è stato fatto un incontro indetto da Lavoro Società, in cui voi c'eravate, credo. No, stavo per dire, ero l'unico presente, ora faccio bene, eravate presenti anche voi, in cui sulla cancellazione dell'articolo 18 non si è visto misba di questa sala. Quindi non parliamo tanto di forze politiche, non era indetto da una forza politica, insomma, anche se alcuni relatori erano iscritti a Federazione della Sinistra. Ora, la carenza di rappresentanza sindacale e di rappresentanza sui temi del lavoro, cioè cancellazione dell'articolo 18, qui non credo che non mai sia d'accordo, è un tema su cui SEL dovrebbe esserci pesantemente, qualora fosse veramente militante, insomma. E qui, ripeto, non c'era, cioè siamo ad una svolta storica su questa sera tutti i TG di tutti i colori, vabbè tutti i colori si sa, ma al massimo si arriva a TG3, grande osanna per Mario Balatelli ieri sera e Mario Monti, che ha portato a casa il 6% di aumento dell'indice di borsa. Ora, ha portato a casa anche l'esclusione dei lavoratori dalla Fiat, ha portato a casa anche la cancellazione dell'articolo 18, ha portato a casa la cancellazione di 6 anni di età pensionabile per tutti, donne comprese, ha portato a casa che per diversi anni, pare 20, ci sarà il pareggio di bilancio modificato in Costituzione grazie al PD che l'ha votato, modifica della Costituzione. La grande vittoria del 6% di aumento dell'indice di borsa comporta che la signora Merkel ficcherà in zona Palazzo Chigi gli armigeri del Triunvirato, Fondo Monetario Internazionale, BCE e Unione Europea a controllare se spostano una graffetta al di fuori del bilancio, soprattutto in materia di enti locali, che dovranno svendersi anche l'anima. Ora, su questi temi, Sinistra Ecologia e Libertà, in particolare Comasca, risulta particolarmente assente. Cioè, Monti è il nemico numero uno, punto. Anche a Palazzo Cernese. Io vorrei sentirlo una dozzina di volte al giorno, questa cosa. E se no, insomma, non capisco di che sinistra stiamo parlando. Di Chiamparino eletto presidente della Fondazione Bancaria San Paolo di Torino col 12% di proprietà di Banca Intesa San Paolo? E questa la sinistra? Va bene, teniamoci con allegria. Non ho capito. C'è qualcuno del PD perché mi pare che si stia rivolgendo a loro. Sicuramente questa è una grandissima vittoria che io la voglio leggere anche però come un punto di partenza. Non è assolutamente un punto di arrivo, ma è un punto di partenza che dovrà dimostrare. Diciamo, io dico che questo che hanno vinto a Como ha vinto un centro-sinistra, no? Quindi dovrà dimostrare a coloro che sono in consiglio comunale, che sono in giunta, al sindaco e a tutta la cittadinanza attiva, no? Che è intorno, perché io sono straconvinto di questo, potrà dimostrare se sarà in grado di governare. Però ecco, io subito, no, vorrei fare qualche considerazione. Noi stiamo vivendo dal punto di vista anche del governo degli enti locali un momento drammatico, nel senso di dire, io sono provvisore in un comune, sono andato a vedere il bilancio di previsione. Comuni 15.000 abitanti, 270.000 euro di investimenti. Poi sono moleggiati, no? Sì, mi dice, noi non possiamo spendere un centesimo, non amministratori, i tecnici. Guarda, non possiamo spendere nulla. Ed è un comune che sta a Pignino, cioè nel senso i soldi ce li ha lì, no? Sono in blocco. Ma questo è soltanto la punta dell'iceberg, no? Di una situazione che in questi ultimi anni sta andando avanti, no? Che è stata quella della privatizzazione, della tentativa di privatizzazione, che è all'interno, che è trasversale, cioè è dentro della destra e della sinistra. Poi non voglio parlare e dire chi è di sinistra, chi è di destra, no, chi è di sinistra all'interno della cosa, che altrimenti rischieremo di... Per me oggi essere di sinistra vuol dire portare avanti i temi che sono convinto che sono quelli di Sella anche, che sono quelli dei beni comuni. E parlare dei beni comuni però vuol dire parlare anche di un certo modo di amministrare. E noi dovremmo tendere a questo nel nostro comune. Io non voglio dire misurare il grado della sinistra a comune, coloro che sono all'interno, ma questi temi molti non li conoscono probabilmente. Ma quelli che lo conoscono devono portarli avanti, e anche i nostri rappresentanti, e quelli che hanno lavorato per parlare di questi temi devono portarlo avanti e attivarsi su questo in modo trasversale, proprio anche per far vedere che, e portando anche delle proposte concrete, proprio per far vedere che siamo in grado anche di governare. E questo rivolgendo quindi alla città, perché giustamente l'ha detto lui, noi abbiamo stravinto, ma abbiamo vinto, è stata una vittoria importantissima, perché è stato veramente l'accantonamento di una cattiva amministrazione che è durata 10 anni, però la città non ha dato fiducia a noi, è lì che ci guarda. Ma anche questo è positivo, perché io moltissimi, io per lavoro frequento movimenti di destra, no, diciamo, che non sono venuti a votare, l'hanno detto così, al massimo non sono riusciti a votare alla Marzorati, no, che è una cosa più positiva, no, a Como, gente che non aveva mai votato neanche pensare, centro, neanche centro, no, diciamo così. E però, però era rimasta assolutamente schifata, no, del modo di governare in questo centro. Però ritornando a noi, no, io volevo fare un discorso assolutamente propositivo stasera, no? Nel senso di dire che noi dobbiamo, io ho fatto parte anch'io di un altro formazione, un altro schieramento, no? Ma non, con tutti, con, ecco, io volevo riprendere, se siamo in grado di farlo, quel senso positivo, quella, quel discorso positivo che si era comunque, no, che era, era uscito in questi ultimi, quest'ultimo anno e che ha permesso, no, perché io ho sempre detto, guardate che noi vinciamo anche se dimostriamo che siamo in grado di governare. Era un'altra delle critiche che mi hanno fatto sempre i miei colleghi, ma voi dopo andate su, dopo tre mesi vi mettete a litigare, non così, no. Ma che purtroppo, purtroppo, era anche vero, perché fare capacità di sintesi, anche noi, no, non l'abbiamo visto, cioè fare sintesi con il mio amico che stimo nonostante tutto, lui non è mica tanto facile, non può fare sintesi con lui, no, diciamo così, perché è, perché è sprone. Però io dico, se noi vogliamo governare una cosa e dare quindi delle risposte anche al territorio, governare non è soltanto, vuol dire anche portare avanti e tenere conto anche della realtà. Allora io dico, beni comuni, partecipazione, abbattimento, modo nuovo di avere un rapporto con il palazzo, cose, tutti i temi che noi abbiamo fatto proprio nel nostro programma e c'è dentro nei nostri programmi questi elementi. No? Sono questi, lavoro, ambiente, tanti assistenza, no? Quindi l'immigrazione, tutti questi temi. Ecco, secondo me la sinistra esce se è in grado di affrontarli, di mettersi in relazione tra di noi per portarli avanti assieme, quindi ben vengano gli incontri che ha promosso Uno Celeste, ma anche con gli altri, anche noi, diciamo, l'avevamo parlato con il Comune Civica, per far uscire, no? E per vedere di rimettersi assieme, e perché io credo anche un'altra cosa, attenzione, non è una cosa facile la partecipazione. Il bene comune, i beni comuni sono la più importante forma di democrazia partecipativa che possa essere. Se voi pensate come affrontare il tema dell'acqua, della scuola o di altri in modo partecipativo, facendo diventare beni comuni, non è quello del dirigistico, no, che dall'alto dà delle indicazioni, ma vuol dire fare un certo tipo di percorso. Per cui io credo che, io sono d'accordo anche con quello che dicevo, lui mi ha rubato un attimo la cosa. Io credo che oggi i partiti della sinistra, tutti, anche quelli che stanno così, quindi devono vedersi, devono leggersi come un momento di passaggio. Io mi auguro che dentro, all'interno di tutti, anche se uno si iscrive, fa bene iscriversi, lui iscriverlo, un altro fa bene a portare, però come un momento di passaggio, non pensare che sia il punto di arrivo e poi da piccolino divento tanto grande. Oggi io vedo che ho sempre vissuto anch'io nell'ambito della sinistra, forse sbagliando sotto certi aspetti, che bisogna essere più attivi, più partecipi, e infatti andrò domani a partecipare a un soggetto, no, che, per capire un attimo questo soggetto politico nuovo che si vuole proporre, no, se è in grado anche lui invece di aiutare a costruire un qualche cosa. Finora, guardate che se andate a vedere, moltissimi partiti da 20 o 30 anni a questa parte sono nati tutti da spaccature. Quando noi riusciremo a mettere assieme e creare un nuovo partito che è invece la sintesi, no, di quello, e io mi auguro, no, che questa cosa, che non so, vedrò domani, possa essere un elemento di quello, che sarà una sintesi invece di aggregati che ci sono in giro, perché ci sono, secondo me vuol dire che e i temi che portiamo avanti, no, sono, diventeranno i temi veramente della sinistra. Io credo che questo sia la cosa da fare a Como. Poi i livelli di discussione sono tantissimi, perché guardate che c'è qui poi economisti che potrebbero darci anche a livello tecnico una situazione a livello mondiale, no, dico, che poi si ripercuote nella cosa locale, no? E siamo in un momento veramente di grandissimo passaggio di grandissima crisi che durerà anni, no? Che ci vedrà e quindi e che vedrà anche ridefinire anche determinati soggetti sociali, no? Ridefinire anche i diritti, no? E altro ancora, no? E io credo che noi, se vogliamo essere di sinistra, quindi utilizzando anche le nostre tradizioni, cioè e non farlo farsiso, dato che non so, il marxismo venga ripreso adesso da Sole 24 Ore, no? Ogni tanto in alcuni articoli te lo tirano ancora fuori o altro, ma come metodo di analisi, come modo di affrontare certi i problemi reali, le dinamiche che ci sono, secondo me, dico, noi dobbiamo fare un grande sforzo per portarlo anche a Como. Io credo che a Como qualche spunto interessante sta nascendo. Se anche queste elezioni, sia per chi è stato escluso, chi non è stato eletto, eccetera, così non lo sanno leggere nel modo corretto, io credo che, anche perché a Como, devo dire, abbiamo anche alcune interessanti, anche intelligenze, anche singole, no? E anche collettive, perché poi io in questo periodo, ma tutti noi perché siamo stati assieme, ci siamo ritrovati in tante persone, lo sapete quello che forse veramente manca, no? Dico, e solo un po' che esca, no? Che esca un qualcosa di dirompente dalla loro generazione, no? Quelli che ci danno del lei, no? Che anche lui il primo ti dava sempre del lei. Ma va bene, anch'io davo quello del lei tante volte. E così, no? E io credo che, ecco, che è questo anche il nostro grande, questa nostra grande visione, no? Di fare politica, ma anche cercare di creare degli spazi dove noi non soffochiamo, no? Perché spesso, parlo per me, no? Quindi non dico agli altri, tendiamo comunque a soffocare, no? Esperienze che potrebbero essere interessanti. Posso aggiungere, no, però c'è da riconoscere che in queste ultime elezioni, sia per il candidato sindaco, ma sia anche secondo me nei gruppi di lavoro prima e sia anche nelle altre liste, cioè Amo la città, Paco Sel, così, un movimento di giovani c'è stato, insomma, che ha collaborato, che ha portato avanti, quindi. Cioè, Anche ragazzi eletti, insomma, ce ne sono di proprio. C'è qualcosa che non c'è a venire? Arrighi, scusa, non gli piacciono i giovani eletti. No, dicevo, più la voglia, più la grande Renzi. Non so. L'intervento di Arrighi mi ha un po' stimolato, perché ha toccato tematiche del lavoro, quindi essendo la CGL, è stato stuzzicato su questa cosa. E, vabbè, io però non ho seguito molto le elezioni di Como. Di qualche ventaglio? Com'è? Di qualche ventaglio? Passeri di Giuseppe, scritto al SEM. Di Mariano. Non ho seguito per altri impegni, nel modo particolare, le elezioni di Como, ma ho visto un po' in generale le amministrative, e il dato molto importante è stato che dove il centro-sinistra si è presentato unito ha vinto perché tutto sommato ha saputo esprimere una tenuta rispetto ai partiti del centro-sinistra, hanno saputo esprimere una tenuta nei confronti del centro-destra che si è sgretolato. Più che una vittoria del centro-sinistra, e lo è stata anche, a mio avviso è stata una disfatta del centrodestra con delle astensioni molto alte sui quali chiaramente anche noi come sinistra dobbiamo lavorare. Quindi questo è un dato inconfutabile. Dove la sinistra si è presentata divisa ha perso, non solo adesso ma anche è una cosa un po' storica questa. Io dico soltanto questo, che con tutte le difficoltà che partiti e le forze politiche del centro-sinistra hanno, con tutte le divisioni possibili e immaginabili, l'unica possibilità per creare un'alternativa al nostro paese in generale è la ricostruzione appunto di questo centro-sinistra attorno a una sinistra che comunque deve condizionare i contenuti e i programmi di tutto il centro-sinistra. Però se noi pensassimo come soltanto sinistra di creare un'alternativa, non è possibile. Non è possibile, non è stato mai possibile in Italia. Abbiamo bisogno di alleati che sono anche il Partito Democratico e l'Italia dei Valori, per forza di cose, oltre che ai movimenti comunque da fare nel territorio, da essere presente nel territorio. Come è stata una bella vittoria, secondo me bisogna partire dai contenuti, dalle idee, dai progetti. Sto parlando, per esempio, lì a Mariano c'è stata, faccio l'esempio di quello che è successo a Mariano, c'è stato un litigio tra diciamo il sindaco e il capogruppo della Lega sul fatto che dice no, il 4% in lingua e il 3%. Ecco, per esempio, in quella situazione la posizione di sinistra qual era all'interno del Consiglio Comunale? Quella di mettere, per esempio, una franchigia su IMU, no? La CGIL, dove può, fa delle trattative con i comuni, dove può, perché con i comuni della Lega, per esempio sul mondo lavoro, su Monza Brianza, è stato fatto poco perché non hanno dato la possibilità, per creare per esempio delle franchigie fino a massimale di reddito sulla addizionale IRPEF e per esempio sull'IMU, anziché dire no, è il 4%, il 3%, io mi aspettavo che magari chi era presente in Consiglio Comunale del Partito Democratico proponesse per esempio una franchigia, un'esenzione maggiore per esempio per redditi molto bassi, persone anziane sole che hanno pagato l'IMU, che magari hanno un massimale di reddito di 7.500-8.000 euro, e hanno pagato l'IMU magari più di persone che hanno reddito elevato, che magari prendono, non so, 600.000 euro e che magari hanno 3-4 figli. Ecco, allora noi dobbiamo cercare in una situazione di portare avanti questi contenuti. Volevo fare un riferimento anche sull'articolo 18, giustamente la mobilitazione ci deve essere, però arrivi. Io ho visto che la gente oggi, oltre a mobilitarsi, oltre a fare gli scioperi generali, che venivano richiamati anche ieri nella riunione di CGIL, e venivano richiamati di fare questo sempre sciopero generale, ma la gente ha bisogno di una prospettiva politica. Cioè lo sciopero generale va bene, la CGIL ne ha fatti contro il governo Monti, contro il governo Berlusconi, 6 o 7 negli ultimi anni e mezzo. Però oggi come oggi, a parte che c'è una crisi grossissima, dobbiamo costruire l'alternativa dando alla gente una prospettiva politica. Se la gente non vede una speranza, una prospettiva politica, uno sbocco politico, allora è stanca di mobilitarsi. Quindi direi che le mobilitazioni vanno bene, però bisogna ricostruire questo rapporto partendo dai contenuti, dai progetti e mettendo al centro le idee e i progetti al di là, no, dell'appartenenza poi tra questi movimenti o partiti di centro-sinistra o di sinistra, perché veramente mettendo al centro i contenuti non possiamo costruire un progetto sia per Como sia a livello nazionale. Grazie. Allora, io sono Davide Vittorio, sono segretario provinciale di SE. Io volevo, cioè, ho voluto questa sentire questa serata, sentire un po' di voci che parlassero a sinistra. Però la cosa che mi lascia sempre più perplesso è che tutte le volte che si fanno queste cose qua, al posto di partire da zero e rimettersi in discussione, si accusa sempre gli altri di essere il primo, il secondo, il terzo. Chi ha vissuto, per esempio, se negli ultimi 2 anni, vicino mio, è presente, eccetera. Se è 2 anni che sta lavorando con Paco, e il fatto che a Como ci si sorprenda di questa Sel Paco è proprio, vuol dire che non sia presente sul territorio di quelli che fanno questa discussione. Perché noi abbiamo cominciato con un referendum sull'acqua e abbiamo fatto con Sel Paco, abbiamo continuato a trovarci tutte le sere con loro e siamo arrivati a un dunque in questa situazione. Noi siamo sempre stati a disposizione di tutta la sinistra comasca, siamo stati sempre aperti a qualsiasi cosa, anzi io onestamente mi sarei aspettato che quando siamo riusciti, perché Sel Paco può dire di essere riusciti a imporre al PD le primarie, noi ci saremmo, e Luigino mi è testimone di questa cosa qua, mi sarei aspettato che l'altra sinistra comunque sarebbe, come posso dire, avrebbe aperto un tavolo su questa cosa qua, sarebbe, come posso dire, avrebbe chiesto di partecipare a questa cosa qua. La risposta è stata: io non mi siedo a un tavolo dove devo firmare un accordo, ok? Per poi dopo essere stata esclusa, essere stata fuori, chiedere al partito maggiore, no? Chinando il cappello, no? E noi ne siamo testimoni perché eravamo sul tavolo, se c'era un posticino per poter entrare. E allora io dico, cioè, non mi piace questa situazione qua. Io vorrei che questa sera si mettesse una bella riga e si dicesse: ricominciamo a parlare a sinistra senza continuare a dire io sono il più bravo, io sono il più bello. Perché se no io potrei scrivere un libro di cosa è successo durante queste elezioni a Erba, a Cantù, a Como. Perché le ho vissute in prima persona in tutti i tavoli, no? E potrei dire che io sono contento comunque che Sel comunque è seduta in Consiglio Comunale a Como. Perché se anche non ritengo che come etica di sinistra Gisella Introzzi o l'altro di Servettini possa essere detto, come posso dire, col vestito nuovo di sinistra, io ritengo che ci possono essere 5 persone di sinistra in Consiglio Comunale, no? E quindi voglio dire, se queste 5 persone potrebbero fare un lavoro comune, potrebbero magari spingere il PD a non fare certe situazioni come quello che è successo negli ultimi 2 consigli comunali, buttando via giustamente 10.000 euro, no? E che vedo per una cosa che si poteva, secondo me, evitare prima di entrare in Consiglio Comunale. Ok, quindi questo è anche, diciamo, l'inesperienza di essere sempre stati all'opposizione, come qualcuno ha detto. Va bene, lo pagheremo questa cosa qua, però facciamo il salto di qualità. Cominciamo, proviamo a sinistra a guardarci negli occhi, pensando di essere magari, come posso dire, l'alunno che deve imparare e non sempre quello che deve spiegare agli altri. Perché c'è gente qua che negli ultimi 2 anni ci ha messo la faccia sempre in tutte le cose e si è preso tutta la responsabilità di qualsiasi cosa che è successo. E parliamoci chiaro, non è stato semplice a Cantù, per esempio, fare una lista e partecipare contro tutti da solo, no? Avremmo voluto evitarla in tutti i modi questa cosa qua, no? Eppure devo dire che se devo fare i conti della serva, in un certo senso l'elettorato ci ha pagato, perché tutti i voti della sinistra teorica li abbiamo presi noi. E allora vuol dire che avevamo il candidato giusto giovane noi, e invece noi abbiamo detto no, abbiamo fatto più un passo indietro. Ci hanno chiesto pure un assessorato e noi abbiamo detto no, perché se non c'era un accordo politico in cui se entrava in Consiglio Comunale, noi abbiamo detto di no. A Erba abbiamo citato un'altra situazione, abbiamo fatto tutta la sinistra unita, e come è andata? Ma io dico, abbiamo deciso insieme, questo che voglio far capire, l'abbiamo deciso insieme, ok? E su questo io mi prendo le responsabilità di tutti, va benissimo, ma siamo capaci oggi, da settembre, di mettere una riga e di dire, affrontiamo a sinistra un parlarci e una proposta insieme, no? Essendo tutti sullo stesso gradino? Questa è la domanda che io faccio. Perché se continuiamo a dire queste cose, cioè, perché andiamo molto lontano? Posso rispondere? Sì. Non ci sono altri primati. Ma io penso che tu abbia toccato un nodo molto importante della questione del stato di cose della sinistra. Non sia la gara tra i vari soggetti, scusatemi il francesismo, a chi ce l'ha più tempo. In poche parole. È un leghismo. È un leghismo. Non c'è un politico ormai. Ormai stiamo finendo tutti lì tra poco. No, io per quello posso anche essere d'accordo. Non entro nei mezzi della questione, che ammetto che all'epoca ero appena entrato ed ero un pochino disorientato rispetto a certi giochi, magari non era scelta determinata. Però su un punto ti do ragione, di sicuro bisogna ripartire, e di sicuro bisogna ripartire andando al di là dei scontri, dei litigetti da bambini dell'oratorio. E noi speriamo che ci possa essere delle occasioni ulteriori di incontro per discutere, perché alla fine, nonostante tutte le esperienze, nonostante tutti i traumi che si possono avere, io parlo ovviamente di persone state in Como, ha una divisione, io penso che siano più i punti comuni, comunque delle possibilità di sintesi, come già diceva Danilo, rispetto a quelli, alle cose che ci dicono. io sono pubblico. Lo so che le elezioni possono aver costituito una cesura fondamentale, però io penso che si possa andare avanti. Un altro? Io due brevi questioni da proporvi, ce le ho. Luca Mindrini di nessun partito. No, diciamo che mi è piaciuta molto la relazione di Celeste, nel senso che tutto sommato mi pare che il tentativo di Celeste sia proprio quello che diceva Vittorio, se non sbaglio, cioè di tirare una riga e di ricominciare da capo. Certo, il problema è quello che individuava Danilo, cioè io sono perfettamente d'accordo. Quando nascerà, cioè Danilo ha usato due espressioni che condivido perfettamente, partiti che sono come momento di passaggio, anch'io la sento così, poi magari non sarà così, però la sento anch'io così. E due, il fatto che comunque probabilmente nascerà davvero qualcosa di nuovo, cioè una forte sinistra unita, come c'è stata in questo paese, non è che non c'è stata in questo paese, una forte sinistra, quando invece che continuare a dividersi, finalmente ci si riunirà. In fondo la forza del Partito Democratico è stata un po' questa, cioè di unire, io non sono il Partito Democratico, lo critico, però comunque hanno avuto la forza di mettere insieme delle tradizioni diverse, che poi ci siano riusciti a un altro paio di mani, comunque lo sforzo l'hanno fatto. E quindi a me piace insomma, questa cosa che diceva Celeste, la condivido e spero che a Como si possa fare. E penso che ci sia lo spazio per farlo. Intanto perché mi sembra di capire che a livello provinciale o prealpino ogni realtà è a sé stante. Quindi vuol dire che c'è spazio per ciascuna realtà di costruire il proprio percorso, che mi sembra positivo, diciamo. Secondo, mi sembra che ci sia un enorme spazio perché tra astensionismo al primo turno, che non è di destra, ma al primo turno a mio parere è prevalentemente di centro-sinistra, ci sono amplissimi margini, cioè c'è un enorme campo da arare. Secondo me questo enorme campo da arare c'era assolutamente in primo luogo il Partito Democratico, però ce l'ha anche la sinistra. Qual è il secondo elemento che secondo me fa intravedere proprio un enorme campo da arare? È l'estrema instabilità che viviamo, cioè una crisi economica che è talmente drammatica che se noi ci grecizzassimo bastano 3 mesi perché si spostino elettorati in maniera paurosa, e voglio vedere che cosa accadrà alle prossime elezioni politiche, perché anche la riflessione che vorrei proporvi è questa, cioè probabilmente ci saranno le regionali, forse, no? Perché Formigoni è assediato. Io non so quanto di questo movimento partecipativo riuscirà ad essere convogliato negli attuali schieramenti, perché comunque poi alla regione e in sede nazionale non ci sono le liste civiche, e questo per molti costituisce un grave imbarazzo, perché come diceva giustamente Celeste, oggi quello che un po' spaventa è la forma partito classica. Il che, ecco, io un punto però ci terrei a porvi all'attenzione. Grande diffidenza nella forma partito classica, perché tutti che ne conosciamo sostanzialmente i difetti. Però non dimentichiamoci che anche un partito vero e ben funzionante e grande è il perno della democrazia, quindi dovrebbe essere un obiettivo raggiungere un grosso partito. Cioè il fatto che noi viviamo delle leggi elettorali e dei raggruppamenti partitici molto piccoli, perché anche il PD è un partito molto piccolo, consente, diciamo così, delle scorciatoie, perché è difficile mettersi insieme, trovare l'accordo, è molto difficile, e la scorciatoia è quella di trovare degli scamotaggi elettorali per sfrangiare. Quindi concludo, perché sono stato già lungo. Io apprezzo molto questo, il discorso che ha fatto Celeste, questo tentativo, spero che appunto possa nascere qualcosa che finalmente unisca. Io suggerirei a questo punto però di trovare poi delle, perché Celeste lo lasciava intuire, io non l'ho ancora ben capito quale sia, io probabilmente non lo so neanche, però bisogna poi trovare delle forme concrete per unire, Ecco, io insisto su un punto, secondo me una delle forme principali rimane sempre, secondo me, l'informazione, cioè la nascita, cioè come si fa a mettersi insieme? Anzitutto creando una pubblica opinione comune, in cui ci si divide ma comunque si è uniti. Unire le forze solo anche da questo punto di vista e rinunciare a ciascun raggruppamento che abbia il suo foglietto, le sue cose, non funziona. O meglio, funziona a livello elettorale, ma se si vuole cominciare a creare un tavolo comune, il primo tavolo comune non è partitico, per esempio, no? Non può essere una forma partitica, può essere un punto di arrivo. Ci sono tante altre forme in cui ci si riunisce intorno in tavolo. Io insisto su un concetto in maniera ossessiva. Uno dei punti fondamentali è la pubblica opinione, anche perché a Como, che è appunto roccaforte della destra, e roccaforte della destra anche perché hanno il monopolio della pubblica opinione, cioè dell'informazione. Questo è un punto fondamentale. Se non si capisce questa cosa, non si fanno passi avanti, a mio giudizio. Io volevo dire una cosa in merito alla questione delle liste civiche, no? Perché secondo me dovremmo fare una riflessione. Come forse è stato l'esempio emblematico, cioè forse è stato, come dire, l'apice, no? Abbiamo avuto una spilza di liste civiche che poi alla fine hanno solo rappresentato una frammentazione, ma dal punto di vista di quello che è la possibilità di decidere, sia dal punto di vista istituzionale, anche dal punto di vista dei contenuti, alla fine non ha vogliato, come dire, non ha avuto uno sbocco, cioè nel senso che forse l'esperienza delle liste civiche vuol dire, può avere un significato in determinati contesti, ma quando la lista civica diventa un fine a se stesso, diventa il fine che è legato esclusivamente al fatto che quella persona possa o pensa e pensi di raggiungere il posto in consiglio comunale, cioè queste vanno a morire, cioè, quindi secondo me non è così sempre o può essere così più fatto delle liste civiche, cioè come secondo me è un dato contrario. Invece la cosa un po' più preoccupante secondo me è forse l'esperienza del Movimento 5 Stelle che sta aggregando sta aggregando un elettorato però in modo, come dire, nuovo, cioè, e poi non si riesce nemmeno a capire come sia la loro organizzazione, e questo secondo me è, non dico che è pericoloso, però dovrebbe farci riflettere un attimino perché anche al loro interno, penso che ripeto un po' tutti, c'è una questione un po' di democrazia, cioè, quindi cioè bisogna capire anche il partito eventualmente o quella struttura che si viene a creare eccetera, deve avere delle forme di rappresentanza, di democrazia interna per poter rappresentare un po' tutte le esigenze, se no noi abbiamo poi un riflusso totalmente su un qualcosa che dal punto di vista è solo un'adesione ideale, non so come spiegare, come trovare le parole. Quindi secondo me io Sinistra Ecologia e Libertà l'ho sempre vissuta come si diceva un momento di transizione, perché a me quello che interessa è riuscire a spostare e sono convinto che lo si possa fare, spostare una grossa fetta di elettorato diciamo o che è nell'astensione o che magari vota PD perché lo vede come un blocco granitico che poi non lo è, lo sappiamo, però a me quello che interessa è che Sinistra Ecologia e Libertà abbia questa possibilità di andare a ricreare e, come dire, a scardinare un attimo, per poter rimettere in piedi una sinistra che abbia una certa consistenza e che possa pesare nella vita italiana, se no cioè, corriamo sempre il rischio di essere sinistra ma poi ai momenti clou, cioè sei isolato, non hai nessun peso, puoi lanciare tutte le parole d'ordine più belle e più giuste che ci siano nel mondo, ma non avrai minimamente la possibilità di incidere nella società. C'era scritta la Celeste. Ci sono altri. Io volevo riprendere cercare di chiarire tra noi che cosa vogliono dire le nostre appartenenze, per cui io prima dicevo è opportuno che ciascuno dica chi è, che cosa vuole fare, in maniera che riusciamo a chiarire che cosa possiamo fare insieme, accogliendole queste appartenenze differenti, senza viverle come è stato, ahimè, fino a questo momento, lo dico veramente a tutti che sono spinto, come sono state, perché per me che vengo innanzitutto da esperienze di politica svolta nella cittadinanza attiva più che nei partiti, le appartenenze non sono mai state un muro, non sono mai state uno steccato, un muro, sono sempre state appartenenze a cui non ho mai voluto rinunciare, ma ne ho talmente tante di appartenenze che non ritengo che ce ne sia una preponderante rispetto a un'altra, e queste appartenenze, così come convivono in me in un'unica persona, io sono veramente convinta che più ce ne sono e meglio è, per cui più idee, più luoghi di provenienza, cioè io di me posso dire quali sono i luoghi da cui provengo, anch'io vivo le esperienze come sempre come transitorie, nel senso che ho tanti luoghi di provenienza, alcuni li ho mantenuti, continuano a convivere e poi vorrei che ci fossero dei posti dove queste appartenenze, se sono veramente laiche, abbiano la capacità di stare insieme e quindi di rispettarsi anche nelle differenze. E la proposta che volevamo fare stasera era proprio una proposta di apertura, nel senso che questa assemblea è stata promossa da SEL e quindi comunque da un partito, però questa assemblea noi non abbiamo invitato soltanto gli iscritti di SEL, abbiamo invitato tutti e tutte, perché riteniamo che SEL da sola ovviamente non possa fare molto, neppure localmente, cioè noi siamo convinti che da soli non si va da nessuna parte. Uno dei tanti luoghi, degli spazi che ho frequentato e da cui provengo si chiamava Sinistra Unita e Plurale, e in quel luogo lì, prima che avvenissero delle spaccature che non sono riprese da nessuno di noi qui presenti stasera, prima che avvenissero delle spaccature, quel luogo voleva essere veramente un luogo di Sinistra Unita e Plurale, che tenesse dentro tutta la sinistra di Como. Per un po' ci siamo riusciti, quando ahimè le questioni sono diventate più tipicamente da forze politiche di partito, più legate a elezioni, quell'esperienza è stata drasticamente, violentemente interrotta, persino in contrarietà con persone espresse dal basso alle primarie della volta scorsa. Per i giovani forse è difficile ricordarlo, però voglio dire che quello che muove me, ma che muove anche le persone che sono insieme a me in questo momento, ma in tanti altri momenti della mia vita, è quella di cercare di ricrearla un'unità a sinistra, e non per dire chi è più a sinistra e chi è meno a sinistra, chi ha avuto ragione e chi ha avuto torto, ma semplicemente per cercare di fare un altro pezzo di strada insieme e per cercare di fare in modo che la sinistra sia, abbiamo iniziato a dire, qui più rappresentata a Como, ma sia più rappresentata ovviamente in Lombardia, in Italia e per quanto riguarda almeno me nel mondo, perché quello che muove tutti quanti noi è la speranza e l'utopia, che ancora non è ancora diventata concreta, di poter cambiare veramente le cose, e quindi per cambiare le cose è evidente che dobbiamo stare comunque insieme e non possiamo essere separati in piccolissimi gruppi, altrimenti tutti quanti noi usciranno sconfitti alla fine. E quindi un'altra riflessione sulla parola coalizione, no? A me la parola coalizione piace molto, è una parola che mi è sempre piaciuta, perché secondo me bisogna essere capaci di rinunciare a alcuni pezzi della propria identità e anche ad alcune, a volte anche ad alcune idee, mediandole con quelle degli altri. Se non faremo questo, la sinistra rischia di rimanere sempre più marginale, sempre più sconfitta. E quindi comunque l'idea di mettersi insieme anche a costo di rinunciare a parte delle cose in cui si crede come importante, e io penso che sia stata molto importante qui la scelta di stare in coalizione per andare al governo della città di Como, perché naturalmente una cosa che fa la differenza è pensare di dover stare, qui forse mi viene incontro la mia età che è abbastanza tarda, di voler stare tutta la vita all'opposizione o voler in qualche modo cercare di lasciare anche un segno di cambiamento stando nel governo. E le idee che sono state presentate da già prima da Eugenio all'inizio, ma anche da Danilo, la partecipazione, i beni comuni, i diritti, sono tutte quante le parole fondanti su cui abbiamo lavorato anche dentro quest'ultimo pezzo della lista Patosel. D'altronde adesso permettetemi veramente di rifarmi alle parole. Nella scelta del nome di Sinistra Ecologia e Libertà c'è stato molto lavoro proprio delle persone che in qualche modo l'hanno costruito, che venivano da esperienze differenti. Quindi l'aver scelto che queste tre parole, non altre, fossero il nome di questo gruppo per me ha significato molto. E l'ho detto anche alle amiche, agli amici, ai compagni di strada che mi hanno chiesto di candidarmi per la lista Patosel. Io non mi sarei candidata, pur essendo tra le fondatrici di Paco, nella lista di Paco se non ci fosse stata, perché in qualche modo ci tenevo, l'ho detto nella conferenza stampa di apertura, ci tenevo che ci fosse la parola sinistra, e non è soltanto un fatto di nominalismo, ci tenevo che la parola fosse nominata dentro la coalizione che ha sostenuto Mario Lucini. Il fatto di nominare quella parola in qualche maniera dà spazio perché quella parola in quel luogo viva. Se quella parola non fosse stata nemmeno nominata, la sinistra non poteva nemmeno vivere nel Consiglio. E qui giusto una notazione rispetto al passato. Mi dispiace molto che Donato Sequini abbia deciso di non partecipare alle primarie, perché se avessi partecipato alle primarie ci sarebbe stato un pezzo di sinistra in più e io sarei stata molto più contenta, non più dispiaciuta, sarei stata molto più contenta che ci fosse anche un altro pezzo di sinistra, che non è quello che appartiene a me, ma comunque sarebbe stata una cosa opportuna per la città. Sull'astensione, io sono d'accordo con Luca che dice l'astensionismo al primo punto è stato un astensionismo anche di sinistra, viceversa al secondo turno non c'è stato affatto l'astensionismo di sinistra e rispetto ai numeri, giustamente qualcuno dice stiamo attenti, bisogna anche ragionare su tutta questa fetta di città che non ha votato. Guardate che volta, la volta scorsa è stato eletto con un numero di voti, voti proprio, un numero di voti contati inferiore a quello che ha preso Lucini questa volta. Quindi non è soltanto una questione di percentuale, e contano proprio quanti elettori si sono espressi a favore di questo sindaco. Quindi sicuramente l'astensionismo c'è stato e sarebbe stupido o troppo semplicistico dire non è vero, non c'è stato, però non c'è stato assolutamente un astensionismo di centrosinistra che non ha dato a Lucini una vittoria elettorale esplicita, pura e netta. che poi l'astensionismo vada assolutamente recuperato è una cosa vera, e proprio perché va recuperato probabilmente dobbiamo fare tutti quanti uno sforzo, compreso il partito a cui in questo momento ho deciso di iscrivermi, per modificare la forma della politica, perché se non modifichiamo la forma della politica l'astensionismo continuerà a crescere, e SEL è nato per modificare la forma della politica. Quindi lo dico prima di tutto, come dire, quasi a me stessa, la cosa fondamentale in questo momento è modificare la forma della politica. Sul lavoro, la questione del lavoro è una questione importantissima, importantissima, perché è lì che è iniziato l'attacco ai diritti anche in Italia. E questo attacco ai diritti, adesso faccio quella torta a sinistra di Enzo Ardini, la finocchiavo quando è passato l'articolo 18, lo saprete sicuramente tutti, ha detto che si complimentava con la Fornero. Adesso mi dispiace molto di parlare di due donne, ma sostanzialmente due donne che una attacca i diritti e dice addirittura che il lavoro non è un diritto, e quindi attacca anche la Costituzione essendo Ministro della Repubblica. E un'altra donna che si complimenta perché nella situazione data la Fornero ha dimostrato una grande capacità e determinazione di riformismo. Mi viene la pelle d'oca, naturalmente, ma credo che venga a tutti la pelle d'oca, indipendentemente da dove in questo momento sono collocati. Verrà sicuramente a chi è collocato in questo momento nella federazione della sinistra, ma viene sicuramente a tutta quanta Selle. Viene a tutta quanta Selle, e quindi ripongo il problema che avevo detto prima, visto che Enzo parlava di molti. È evidente che non ci può essere una coalizione di sinistra che cerca di salvaguardare questa esperienza, perché questa esperienza, ahimè, non si può considerare un'esperienza di sinistra. Tutti quanti abbiamo gioito quando Berlusconi è andato a casa, ma certamente questo governo, che è un governo politicissimo, non è un governo tecnico, non fa la politica che vogliamo noi. Quindi su questa cosa non c'è chi lo dice più forte e chi lo dice meno forte, lo diciamo forte praticamente tutti quanti. Niente, quindi sulla partecipazione, l'ultima cosa sulla partecipazione. La partecipazione è una questione che ha, è una parola che ha attraversato veramente tutto quanto il programma di tutte quante le liste che sono state a sostegno di Lucini. Però la partecipazione non è l'ascolto, e la partecipazione bisogna stare attenti che non diventi nemmeno soltanto uno sfogatoio, perché quella non è partecipazione. Quindi una delle cose che dovrebbe fare un soggetto di sinistra, un soggetto misto di sinistra, in cui sicuramente ci sta Selli, ci sta chiunque altro voglia starci, è cercare di creare dei luoghi, degli spazi di partecipazione reale, e non degli spazi in cui c'è qualcuno che ascolta e qualcuno che parla, ma una partecipazione che sia una partecipazione alla pari. Per questo io ci tengo molto a dire che il momento di incontro con i soggetti politici è una cosa diversa da quello che stiamo facendo questa sera, e ci saranno, non lo dico in contrapposizione, lo dico giusto per chiarirlo a tutti quanti noi, e ci saranno dei momenti di incontro con le forze che non sono in maggioranza, ci saranno dei momenti di incontro con le forze che sono in maggioranza, e ci saranno altri momenti di incontro che sono tra cittadini e cittadini, ai quali io posso solo impegnarmi a dire che SEL li promuoverà. Sarebbe molto bello che ci fossero delle risposte che venissero da tutti e non solo da SEL, perché altrimenti, come diceva qualcuno prima, sembra quasi che ci si voglia mettere in qualche maniera il cappello sopra, non è così. Sein farà anche altrove la sua politica, ma in un'assemblea aperta come questa è chiaro che io vi invito a iscrivervi a Sein, perché Sein è appena nata qui a Como, veramente appena nata e quindi in costruzione, e a questo punto vi dico anche perché io ho deciso di iscrivermi in un momento così particolare in cui gli ci partiti sono crisi, perché ho valutato che Sella avesse fatto una grande apertura a tutte quante le idee di sinistra, ecologiste, per il movimento eccetera, e perché ho valutato che in questo momento senza organizzazione veramente rischiamo di non riuscire a portare avanti le nostre belle idee, perché la sinistra purtroppo in questo momento vive una situazione molto difficile, non soltanto a Como, non soltanto in Italia, non soltanto in Europa, quindi bisogna rendersi conto che noi veniamo da di neoliberismo, di attacco ai diritti, di sconfitte una dietro l'altra, e abbiamo bisogno veramente di stare uniti, ma abbiamo anche bisogno di dare fiducia a qualcuno che sia in grado di dare le gambe alle nostre idee, perché così come diceva Luca, tutti quanti noi dobbiamo aspirare a un soggetto politico grande, non so se si chiamerà partito, non so come si chiamerà, però dobbiamo aspirare a stare tutti quanti insieme in un soggetto politico di sinistra che ci sappia tenere tutti insieme. L'ultima cosa sul Movimento 5 Stelle. Tante volte sembra quasi che ci si dica, ma dicono le vostre stesse cose. Io faccio una grande differenza. Intanto non dicono le nostre stesse cose, e le dicono con una forma di una violenza che a me, che ho sempre ritenuto che la nuova forma della politica debba essere una forma di politica non violenta, quella modalità appare demagogica e appare molto violenta. Quindi bisogna sicuramente confrontarsi con chi ha votato il Movimento 5 Stelle, bisogna confrontarsi con quell'elettorato che ha dato un voto sicuramente di protesta, però comunque non è stato un voto di antipolitica, quello è un voto politico, perché hanno scelto comunque una forma politica, però con la chiarezza che quella forma politica è una forma politica che non rappresenta il nuovo, anzi è una forma politica liberistica e spesso violenta. Scusatemi, ciao, vivendo un pezzo, saluto quelli che sono arrivati adesso, che sentiranno. Io sono di Fromartino di Paco, ci siamo presentati insieme a sé in questa campagna amministrativa. Allora, da una parte, come persona sono molto preoccupato, sia dal punto di vista politico, sia dal punto di vista di quello che sta succedendo un po' in Italia, perché ad esempio Enzo faceva riferimento al problema dell'articolo 18, questo è vero, è reale, però secondo me sta andando in crisi, cioè, un po' tutto. Oggi parlavo con un artigiano, un usatore, e diceva io chiudo la ditta perché mi hanno chiesto talmente tante tasse che io non posso comunque pagarle. Quindi ragazzi, qua non si tratta di difendere solo certi ceti, questa crisi sta risucchiando una serie di persone, magari una volta non erano sicuramente di sinistra, magari erano anche dei leghisti, però comunque è una crisi che è molto profonda dal punto di vista economico, e questa cosa è molto preoccupante. Allora, la prima domanda è: a sinistra, come la sinistra pensa di uscire dalla crisi? Cioè, nel senso che se facciamo un'assemblea di SEL dobbiamo interrogarci un po' su queste situazioni, perché penso che a livello nazionale la situazione non sia, diciamo, sotto il profilo politico bellissimo, anche perché ci sono voci del PD che deve andare da una parte, che deve andare dall'altra. Secondo me, se posso fare una critica a Sel, in questo momento, soprattutto ovviamente parlando di Vendola, c'è troppo attendismo rispetto alle scelte che deve fare il PD. Cioè, Sel ha fatto prima e subito dopo la caduta di Berlusconi, secondo me, è una politica molto intelligente, molto forte, rivolta comunque a quale idea? L'idea che comunque, come diceva prima lui, cioè, si vince uniti con i contenuti a sinistra. A questo punto però, se la battaglia è quella di dire mettiamoci insieme, ma non c'è nessuna prospettiva dal punto di vista politico, cioè, abbiamo visto anche i greci, ci sono partiti che possono contare anche il 15%, il 20%, ma poi voglio dire, non è che vai chissà dove devi andare. E questa cosa qua secondo me è molto profonda. Personalmente la vivo male, perché è una situazione dove precedentemente mi sembrava di avere un punto di forza. Sinceramente devo dire adesso che di sicuro il PD ha fatto un grosso errore ad appoggiare Monti. Sono d'accordo, io penso che, no, io penso che giustamente si doveva andare probabilmente alle elezioni, questo l'ha detto Sel, se non sbaglio, e secondo me questa forse era una bella prospettiva. Molta gente di sinistra dice attenzione, eravamo sul baratro, quello che è stato fatto comunque è stato passo avanti del un passo avanti, anche se non era il baratro. Però comunque adesso siamo ancora in una situazione di impasse, come secondo me anche come Sel. Perché è stata fatta questa proposta, se il PD non ci sta, ci pensiamo noi. Bene, ragazzi, bisognava farlo anche prima, secondo me. Questa è la prima cosa che voglio dire adesso. Ritengo, scusatemi se sono un po' cattivo, banale l'idea di uniamoci. Cioè, personalmente non me ne frega niente che ci sia l'unità della sinistra in un certo modo piuttosto che in un altro. A me interessa che ci sia, come diceva Nanni Moretti, qualcuno che dica qualcosa di sinistra per far uscire la gente dalla crisi. Poi se uno che ha la faccia di Renzi, ha la faccia di Sel, piuttosto che a me personalmente interessa poco, certo che non può essere Renzi a dire qualcosa di sinistra, io l'aspetto da quelli di sinistra, che attualmente non stanno dicendo nulla di sinistra, perché non stanno dicendo nulla, e questo continua a spaventare. Prima cosa, sul piano locale io penso che non sia giusto confondere un po' le situazioni, perché noi all'interno di Paco Sel abbiamo anche deciso di, diciamo così, di camminare uniti per quanto riguarda tutto ciò che è anche l'espressione di carattere amministrativo. Abbiamo anche assessori, abbiamo consiglieri comunali. Secondo me l'operazione che deve fare Paco Sel non è tanto quella di dire mi unisco con Pinco, mi unisco con Palino, perché diceva prima Celeste, ascolto. Quindi da tutte le parti può arrivare qualcosa. Ascolto e trasformo questa mia capacità di ascoltare in una politica di carattere amministrativo, se posso. Perché poi abbiamo anche visto, come diceva Danilo, che ci sono problemi economici nei comuni, problemi enormi che le passate amministrazioni di centrodestra hanno lasciato all'interno di questa città. La cosa bella per Como, visto che siamo a Como, l'assemblea di Como, è che secondo me da parte dei cittadini ci sono molte aspettative. Non andranno deluse del tutto, perché qualcuno di sicuro verrà deluso, però secondo me l'aspettativa è alta, è alta soprattutto la fiducia. Io ho visto un'assemblea fatta da Lucini a Como per la chiusura del cavalcavia dei lavatoi. Mi ha mandato Luigino perché mi ha detto: lì fanno casino, tu che sei bravo, vai e cerca di fare casino. Non c'è stato assolutamente bisogno. I cittadini, ed è questo secondo me lo spirito che dobbiamo far vivere. Cioè, non è Enzo solo importante, secondo me, difendere certe bandiere. La cosa importante è anche l'approccio che hai nei confronti della città e dei cittadini. Lì i cittadini sono stati, e non era gente di Lucini, punto, cioè non era del centro-sinistra, la gente era normalissima, eretta dal PD? Assolutamente no, no, era indetta dal sindaco, dall'assessore e quindi è stata indetta dal comune. Mi spiegate, aspetta, dopo parlo. Dopo parlo. Hanno 10 consiglieri, ovvio. Anzi, dopo parlo, se no hai sbagliato. Se gli diamo il permesso di parlare, può parlare. Scherzo. Allora, il problema è che invece erano cittadini e si sono posti in modo propositivo nei confronti dell'amministrazione, che guardate che io ho 60 anni, faccio politica da non so, forse 40, non so, da forse anche di più, è la prima volta che vedo che il cittadino va davanti all'amministratore per parte dell'altro. È veramente la prima volta, dicevano, anche cazzati, tipo, ma questo semaforo non lo possiamo fare più lungo, ci saranno i vigili, non ci saranno, possiamo fare questa svolta in un modo, cioè cose molto pratiche. E nessuno, vi posso giurare, nessuno critico, nel senso che hanno capito qual era il problema e speriamo di poterlo risolvere in tempi brevi, eccetera. Questa è una cosa importante, secondo me, che deve fare Paco Sell. Poi, giustamente, Sell a Como deve fare anche un altro tipo di strada, perché giustamente Sell ha visto in Paco e Paco in Sell la possibilità di simbiosi per ottenere un certo risultato. Però ovviamente ogni soggetto politico deve sviluppare una sua capacità, una sua strada. Non è facile in una città come Como, però io ritengo che la cosa più importante è cominciare a partire, secondo me, un po' dall'alto in questa fase, perché manca un'azione propositiva a livello nazionale. Allora ci sentiamo, almeno io mi sento un po' spiazzato da questo punto di vista. Quindi se si riuscisse nel giro di pochi mesi a risolvere questioni grosse a livello anche nazionale, secondo me questa avrà anche una ricaduta su Sell a livello locale. Io cercherei di distinguere un po' in due anni, a livello locale e a livello nazionale, anche perché i politici, in genere chi fa politica, in genere cerca di distinguere anche gli interlocutori e le cose che si possono fare a livello locale rispetto al nazionale. Io confermo quello, anche dal punto di vista sindacale, confermo quello che diceva Piuma, nel senso che anche noi abbiamo segnali da parte dei dipendenti del comune molto positivi sull'atteggiamento iniziale da parte di questo sindaco e di questi assessori, perché c'è stato finalmente un confronto. Il fatto solo stesso di averli salutati all'inizio, si sono sorpresi, hanno telefonato e mi hanno detto: cavolo, qualcosa sta cambiando. Cioè la buona educazione sorprende. Io credo che ci sia una decisione molto positiva da parte di questa giunta. Io credo che la strada di sostenere Lucini sia stata la strada giusta, sapendo che noi partivamo da situazioni e da opinioni molto diverse, ognuno di noi ha rinunciato a qualcosa. Se dovessi guardare indietro, io ero convintissimo del fatto che noi avremmo vinto solo avendo un esponente della sinistra, solo avendo un esponente nettamente di sinistra. Poi non c'è stata questa scelta, e alle primarie c'è stata una scelta di un esponente realmente moderato, perché Lucini l'abbiamo preso in giro anche con le battute eccetera, però è realmente moderato. Però io poi lo misuro su quello che sta facendo, sulle cose che fa. Io ho rivisto e ringrazio Raffaele, il gruppo di Raffaele, perché altre cose sta facendo con le tue informazioni. Un'operazione molto interessante, molto bella, perché io non ero venuto alla riunione con Lucini sullo svincolo e me la son vista. Per di più ho tagliato Pietro Nisso, eccetera. Quindi il vantaggio di rivederselo è che tagli, quando capisci che uno si sta perdendo, vai avanti, non devi seguire tutto. La cosa è durata molto di meno che un'ora e 45, credo che durasse. Quindi a livello locale non mettiamo avanti le mani. Cerchiamo di essere laici e di confrontarci con questa giunta in modo laico sulle cose che fa. E secondo me qualche sorpresina verrà fuori. Sapendo che, dicevo prima, ognuno di noi ha rinunciato a qualcosa. Io in commissione, ad esempio, partecipando alla commissione sociali, qualche scontricino ce l'abbiamo avuto. Poi qualche resistenza ce l'abbiamo, soprattutto da chi magari è alla rete della Democrazia Cristiana, ci sono. concettualmente e culturalmente, cioè, però io non li ritengo maggioritari. Per quello che mi risulta, alcune politiche di chiusura nei confronti dei diritti, ad esempio, sono solo di una parte minoritaria della giunta, che misureremo poi nei prossimi mesi e cercheremo di, e se non saremo d'accordo, di sentire. Cioè, la forza di Paco e di Sella oggi può essere quella di collaborare, ma anche di sentire. L'altro ambito, quello nazionale, dovremmo chiederci. Allora, la politica di Monti è una politica coerente col personaggio, e chi segue Monti deve essere cosciente del fatto che non è un apprendista, ok? Ha, dal punto di vista della sua concezione, quella è una concezione coerente e razionale. Il problema nostro è dire che quella concezione è superata e perdente. Perché non soddisfa, non tanto perché non soddisfa l'economia in generale, è molto probabile che i mercati gli daranno anche ragione. Me lo auguro da quel punto di vista, perché sennò, ragazzi, qualche problemino nasce. Ma al di là di quello, noi dobbiamo essere coscienti di una cosa: quella prospettiva non tutela le persone che noi intendiamo rappresentare. Perché io vedo sul lavoro questa difficoltà che diceva Piuba. C'è, è reale, io faccio rappresentare i lavoratori della sicurezza per il settore artigiano, quindi visito le aziende artigiane. Paradossalmente il settore artigiano è tenuto molto meglio che altri. Perché io vengo dall'industria, ho seguito per anni l'industria tessile, che è una catastrofe. Il settore artigiano regge di più, regge un pochino di più. Certo che c'è un discorso di banche. C'è un discorso di pagamenti, perché chi ad esempio lavora per lo Stato ha un ritardo di 6 mesi di pagamenti quando gli va bene. Cioè, c'è una serie di sostegni che ad esempio il pubblico dovrebbe risolvere e che ad esempio Monti si è impegnato a risolvere, ma per ora non ha risolto, cioè i debiti che il pubblico ha nei confronti delle aziende. E solo risolvere questo comporterebbe una ripartita, un rilancio per queste imprese. Io non sono convinto che noi rappresentiamo solo i lavoratori, ad esempio. Noi come CGL sì. Ma noi, se quando facciamo. Certo, ma io non penso. Io penso che, ad esempio, un artigiano quando lavora 10 ore a fianco del suo lavoratore, un pochino lavoratore lo sia, un po' di più che non nel settore industriale. Ho visto situazioni molto, molto partecipate, molto unite, che rendono anche perché sono molto più flessibili. Dal punto di vista nazionale, ritorno a dire, non mi sembra che ci siano le possibilità di fare quello che è stato fatto a Conti. Cioè, non mi sembra che in questo momento il PD dia le garanzie di apertura mentale per dire qualcosa di diverso sostanzialmente rispetto a quello che dice Monti. Il problema è un altro però per noi, è che cosa diciamo noi. Perché non possiamo solo dire che Monti è sbagliato e il PD sbaglia a seguire Monti in tutte le politiche. Dobbiamo anche dire che cosa bisogna fare e quindi dire qualcosa di sinistra. Questo io non l'ho ancora chiaro, perché non c'è in questo momento nemmeno in bozza un pensiero alternativo a quello che governa. E questo è un grosso limite. Noi rischiamo, sinceramente, sono d'accordissimo con Cuba, noi rischiamo seriamente di andare ancora in un governo in futuro laddove non abbiamo condiviso nulla con la maggioranza del governo, per poi ritrovarci a dover sopportare, come ha fatto Rifondazione per anni, oppure a tagliare, come ha fatto Rifondazione a un certo punto rispetto al centro-sinistra. E quindi, secondo me, a me piacerebbe che queste riunioni ripartissero da capo, come ha detto Vittorio, rispetto proprio alla prospettiva. Mi piacerebbe capire che cosa si dice d'altro, di diverso rispetto a questi. Perché questa è l'unica. Monti, per ora, in campo c'è una prospettiva e un'opinione, che è quella di Monti e delle banche. Ha messo a dirigere la RAI, le banche. Quindi, ormai il pensiero unico è quello, lo sappiamo, ma non mi sconvolge. È dentro nel suo pensiero. Non vedo quindi per chiudere, non vedo a livello nazionale una possibilità di collaborazione in questo momento. Se dovessi valutare adesso, come adesso, le situazioni, un PD che tenta di mettere ancora insomma il centro e la sinistra, non mi dice niente di nuovo e soprattutto non ci si confronta invece su queste che sono le cose. Allora, fino a che hanno detto quella cosa lì, io sono rimasto all'invito, cioè, almeno abbiate il pudore di stare zitti. Scusate se sono arrivato tardi, ma ho un'altra cosa prima. Non ho seguito i ragionamenti, voglio dire due cose che nascono dalla percezione che mi deriva da essere da parte del tavolo da una quindicina di giorni. Lo voglio fare con un esempio che riguarda la mattina di stamane. Io stamattina sono uscito per andare all'ufficio dei servizi sociali e prima di andare ai servizi sociali sono entrato all'Aler. Sono entrato all'Aler perché nel giorno scorso ero un puntale tra figli, senza lavoro, uno sfratto esecutivo settimana prossima dell'Aler. Il ragionamento che ho tentato di fare è questo: non si possono affrontare i problemi in questa maniera. Cioè, non può succedere che un'azienda regionale dell'edilizia residenziale scaraventi una persona sulla strada, cioè dall'altra parte della strada. Nel senso che bisogna essere tutti consapevoli, e lo dico in maniera semplice, che se in Italia ci sono 60 milioni di persone, ogni giorno 60 milioni di persone devono mangiare, dormire, stare sotto un tetto, curarsi. Se non riprendiamo questo ragionamento, credo che non andiamo da nessuna parte. Mi sembra che la grande malattia dell'individualismo radicale, che colpisce anche la sinistra, sia una malattia profonda. La sinistra ha abbandonato da tempo la cultura, diciamo, del tema solidale, sociale, dei diritti al lavoro, alla casa, ai beni essenziali, ai beni comuni, sposando e rincorrendo secondo me tematiche che vanno insomma nella direzione della salvaguardia radicalizzata del bisogno individuale, del diritto individuale. Questa cosa non ha poco conto. Oggi pomeriggio noi che stiamo là dalla mattina alla sera in questo periodo, credetemi, la situazione vista da vicino è molto più complessa di non vista due passi indietro. Lo dico con una banalità: per qualche tempo si è detto ma perché non vengono riparate l'illuminazione? È perché semplicemente la società che gestisce non è pagata da un pezzo. E capite che quando si evidenziano anche questi dettagli la cosa non è proprio banale. Allora, oggi pomeriggio eravamo insieme a ragionare su temi come come ci stiamo dentro con i centri di aggregazione giovanile, per i quali i trasferimenti dello Stato l'anno prossimo si azzerano, come ci stiamo dentro con la presenza di sportelli psicologici nell'età adolescenziale per i quali i contributi sono zero, come ci stiamo dentro con i nidi. Capite che tutto questo rimette in gioco una serie di questioni molto, molto complesse, per cui se una persona si sente dire no, io non ti accolgo in primo al nido, oggi abbiamo una lista d'attesa per le persone che stanno fuori per ora dalla porta, questo genera ulteriori problemi rispetto all'accesso al lavoro e le risorse che lo Stato ha tagliato dalla fiscalità, cioè lo Stato assorbe le risorse dalla fiscalità generale, te le rimandava. Oggi non te li rimanda più, risultato: se tu vuoi mantenere uno standard di servizi, arrangiati, fai pagare chi è in grado di pagare, escludi chi vuoi escludere. E la situazione nella contingenza di un bilancio non affrontato ci pone la necessità di dire: per ora ovviamente devi fare un balzo in avanti e dedicare i prossimi mesi esclusivamente a ragionare sulle possibilità. Però credo che il tema locale non si possa separare dal tema globale. Io personalmente vivo l'esperienza di Monti con una percezione fortemente negativa di grande disagio. Ritengo che il tema fiscale sia malamente impostato, malamente impostato, nel senso che l'idea che si possa recuperare alla contribuzione, per esempio attraverso l'IVA, innalzando l'IVA è demenziale da questo punto di vista, con l'IVA del 4% nessuno di noi si sentirebbe, dico di noi, si sentirebbe nel ricatto di quando vai dal meccanico che ti dice 1000 euro così o 1400 con la fattura. Capite che questo è un meccanismo assolutamente perverso. Questo è il meccanismo che regge la situazione attuale, nella quale l'IVA è evasa in una maniera mostruosa, ma l'evasione dell'IVA comporta come secondo effetto l'evasione dell'IRPEF, quindi ovviamente il meccanismo fiscale così non può funzionare. Il meccanismo fiscale è l'unico meccanismo nel quale si può giocare il tema della solidarietà, e bisognerebbe riuscire a rideclinare questo tema dicendo che cosa vuole la sinistra dal punto di vista fiscale, non nel senso che vuole defiscalizzare alcune questioni, ma vuole ridimensionare alcuni carichi fiscali che poi alla fine finiscono sugli stessi medesimi, quelli che li pagano e quelli che acquistano, per ridistribuire questa diciamo questa partecipazione collettiva. Non riesco a pensare alla fiscalità in altra maniera. Gli investimenti pubblici, che sono l'unico motore possibile oggi per uscire dalla crisi, non credo che si possa fare a meno di un investimento pubblico intelligente e sensato, e in una direzione che la sinistra dovrebbe saper indicare. E io mi permetto di dire che oggi l'investimento più importante assoluto è sulla persona. Noi abbiamo un numero di interventi, per quello che sono le cose che ho potuto approfondire in queste settimane, per esempio sul tema dei minori divergente. La crisi che attanaglia i nuclei familiari diventa una crisi non soltanto economica, ma crisi poi di crescita di minori. Oggi noi spendiamo con Comunicom di questo numero, che ovviamente è all'oggi ma domani sarà di più, 1.700.000 euro per affidamento di minori a strutture dedicate, che è una cifra enorme, una cifra mostruosa, ovviamente che è l'esito di una storia. È chiaro che questi soldi poi, nel momento in cui il tribunale dei minori o che sia ti affida il minore, tu non puoi fare altro che affidarlo, spendere, eccetera. Non si va da nessuna parte, detto brutalmente, non si va da nessuna parte. Se non siamo in grado di investire in termini di se non riusciamo a riconvertire la parola investimento in un significato diverso rispetto a quello che ha nell'accezione comune, dicendo che l'investimento sulla persona è l'unico investimento credibile, credo che non faremo un discorso di sinistra. Io quindi suggerirei a tutti quanti noi che viviamo il grande disagio, sono d'accordo con le cose che ho detto prima, che in questo momento manca una bussola, manca una prospettiva. Io ho letto oggi e ho condiviso la riflessione che ha fatto Vendola oggi nel pomeriggio, che dice insomma che se l'ipotesi è quella di Renzi, insomma forse questa non è la strada che interessa la gran parte di noi. Può darsi che interessi qualcuno, ma non certo la gran parte di noi. Dobbiamo pur riflettere, cioè non ha nessun senso tra virgolette vincere le elezioni per vincere le elezioni. E in questo senso l'ipotesi che noi abbiamo fatto, e io continuo a coltivare in questa esperienza che abbiamo appena iniziato, è di tentare di cambiare il modo di pensare la comunità, il modo di pensare le relazioni tra le persone, il modo di pensare che cosa vuol dire investimento. Questa è la questione più seria. Poi mi permetto di fare una piccolissima aggiunta. Siccome in questo momento Lucini mi ha chiesto di stare su due fronti, che sono i servizi sociali, che hanno la cosa che ho accennato prima, e dall'altra il tema dell'ambiente, vi dico francamente che proprio osservando questi due mondi, che sono entrambi fondamentali, si ha peraltro una percezione netta del diverso valore del denaro. Nell'estate, per quanto riguarda l'integrazione dei servizi agli anziani, ci sono 5.000 euro. Sull'altro fronte, e questo lo dovremmo dire nei prossimi giorni, parlando di bilancio, l'ultima urgenza che nasce dalla bonifica in corso dalla Ticosa chiede una disponibilità che ha l'ordine di grandezza del 1 milione di euro, che ovviamente tu devi porgere sull'unghia immediatamente, perché questa è una questione che anche dal punto di vista ambientale non ha possibilità di essere rinviata, però da una parte 5.000, dall'altra 1 milione, che è l'ordine di grandezza, come diventano paradossalmente e abissalmente diversi. Io sto esplorando con una certa attenzione quello che è la gestione dell'appalto in essere dei servizi di raccolta e smaltimento dei rifiuti, e si colgono ordini di grandezza per operazioni extra contratto che sono dell'ordine di grandezza delle 10, dei 20.000 euro, alle volte del tutto, cioè poco, diciamo così, giustificabili. E mentre appunto dall'altra parte dicevamo appunto siamo lì a domandarci se siamo in grado di. Esiste quindi davvero la necessità che tutti quanti noi insieme diventiamo un po' più consapevoli del dettaglio analitico di quello che sta succedendo dal punto di vista della spesa. Non credo che sia possibile in poche settimane riaggiustare determinati costi, però credo che sia assolutamente importante dirselo: ci sono dei rubinetti aperti che vanno chiusi in tempi brevissimi, ci sono costumi, abitudini alla spesa che sono tradizionalmente, come dire, incontrollati, e ci sono altri costi che sono serratissimi, ci sono spiragli strettissimi. Noi come elaborazione credo dovremmo fare un po' più di fatica, e lo dico anche come disponibilità ovviamente a condividere quella che è la parte di conoscenza che nasce dallo stare dentro una certa scatola, perché solo secondo me analizzando con dettaglio tutto questo si riescono a capire le problematiche e magari a indovinare quale può essere la strada per uscirne, che non è domani. Dobbiamo dircelo con grande pazienza, la via d'uscita non è domani. Siamo in una bagna, per usare un'espressione non comasca, ma siamo in una bagna di una complessità estrema. Noi con grande realismo stiamo davvero cercando di vedere tutto il dettaglio della situazione, e alcuni di noi sono persone che non vengono da un altro pianeta, ma vengono da un'esperienza, come dire, che c'era nato, insomma, il Consiglio Comunale fatta con diligenza, usiamo questa espressione, ma malgrado questa diligenza quello che coglie aprendo i cassetti, avendo i cassetti davanti e potendoli aprire, è decisamente più complesso. Chi ci ha preceduto è stato in questo senso bravissimo, lo dico davvero bravissimo, a come dire, mimetizzare delle situazioni. C'è anche un'urgenza fortissima dal punto di vista dei rapporti di lavoro. Ci sono persone che hanno con l'istituzione, con il Comune di Como, rapporti di lavoro precari che durano da tempo e che con le attuali accelerazioni dal punto di vista ministeriale crollano domani. Crollano domani lasciando dei servizi sospesi sul nulla, quasi nell'impossibilità di procedere. Noi oggi abbiamo una capienza dei nidi di circa 600 bambini, ne dovremo lasciare almeno 40 in lista d'attesa, non perché non ci sono le strutture, ma perché il personale che noi abbiamo in carico oggi e che può essere utilizzato per questi servizi non consente la risposta al servizio, che è assurdo. Ma come fino a ieri era coperto con determinati rapporti di lavoro che oggi non possono essere replicati. Abbiamo persone che lavorano all'interno dei servizi sociali e fanno una funzione d'ufficio che risultano essere a carico di cooperative che lavorano su progetti e che hanno accettato di farsi carico dentro il progetto dell'assunzione di una persona che nulla ha a che fare col progetto ma che lavora per la cooperativa. Il pasticcio, sto dicendo, è davvero mostruoso. E in questo momento in cui, diciamo, a livello governativo si sta dicendo rimettiamo un po' d'ordine, ci sono persone che domani non lavorano più, servizi che domani non possiamo portare avanti, E ovviamente una risposta a tutto questo chiede anche politicamente una determinazione. Io credo che sia molto importante, rispetto a chi sta a fare in questo momento l'amministratore, che ci sia una riflessione politica. Cioè io invoco che ci sia un pensiero politico, che ci sia qualcuno che nell'autonomia e nella libertà possa dire delle cose, possa dire dei pensieri, possa dare degli orizzonti. È assolutamente determinante. Io credo forse più importante lo spostamento a un orizzonte più lontano da parte di chi pratica la politica, mi riferisco a voi, che non sulla contingenza. Cioè va davvero disegnata la prospettiva, bisogna indicare degli orizzonti, bisogna dire dove si vuole andare, bisogna dire come ci si vuole andare, prima ancora che con chi. Io non sono preoccupato del con chi, ma sono preoccupato del dove e in che modo. Se noi riusciamo a dire dove e in che modo, riconoscendo alcuni pensieri che possono essere condivisi e che rimettano al centro la relazione tra le persone, che distruggano progressivamente la malattia che ci ha invasi tutti, e io ripeto, è l'individualismo radicale, che siamo tutti, forse anche noi che siamo qui, ammalati di questa patologia dell'individualismo radicale. Se riusciamo a curare queste cose, credo che riusciamo a ridisegnare una prospettiva che può essere solo una prospettiva di relazione. La cosa che ha detto Marchione, non so se dirlo oggi, non lo so, è evidentemente che noi siamo folcloristici, però il tema dei diritti, nel senso dei diritti che io penso come diritti legati al tema del lavoro, alla dignità della persona, alla garanzia di beni fondamentali, credo che sia un orizzonte possibile, ma non da declinare in maniera retrograda. Dobbiamo poi agganciarlo, secondo me, molto strettamente alla situazione e ai percorsi possibili. Scusate. Io siano maggiormente radicalizzate in forme di soggetti che hanno i problemi che portano, ma così insomma non c'è più nessun filtro, non c'è nessuna discussione o possibilità di fare. E quindi poi hai difficoltà ad aggregare, certo. Non aggreghi, neppure esperienze in giro ci sono tante, ci sono momenti associativi, le cose che ha detto Piuba, che l'assemblea, a me non colpisce questo fatto, che tu hai detto che la riunione, quella sul cavalcavia, non ha avuto questa dimensione di addosso all'amministrazione. Non mi colpisce per il fatto che, appunto, vedendo un po' esperienze di questa natura in giro ci sono. Faccio un esempio, visto che c'è anche Magatti, che ha anche la responsabilità dell'ambiente. Tu ricorderai, Bruno, da anni ci siamo battuti perché Scardina fosse un pezzo di, della Spina Verde, ci sono le delibere comunali. Ora, quella cosa lì, io mi aspetterei che in qualche maniera venisse rilanciata. Ma come mi venisse rilanciata? Intanto, come è stata a suo tempo portata? Perché se quella struttura che adesso, quello che è stato costruito con un lavoro volontario, di soldi, associazioni, di persone che ci mette, che ha ricostruito i sentieri, ha fatto, oggi non è più così, oggi è tutto molto disperso, lì è ritornato quello che era prima, riavanza tentativi di dire no, cosa vogliamo, insomma, o altro, però quello è una, quella è una forma, credo, potrebbe essere una forma in cui riaggreghi persone che suonano lì e magari questa volta hanno un ascolto da parte dell'amministrazione, non solamente dall'amministrazione che dall'alto fa qualcosa, ma fa qualcosa ma in qualche maniera cerca di essere stimolata o lo ricerca, non lo può fare l'amministrazione, però magari lo possono fare chi ha voglia di rimettersi in piedi, cioè questo ambito qui o ambiti di questa natura, che cercano momenti, perché credo che questo sia il problema grosso, che si riallega, si ricollega con quello più generale che avete detto, su Monti, la crisi economica che è incipiente e che va avanti e bla bla bla, tutto sappiamo. Però noi come la riconvertiamo? Come possiamo intervenire su questa cosa tenendo qui? Credo cercando di evitare solamente che i nostri ambiti, queste riunioni che mettiamo dentro, siano il mondo. Cioè il nostro, questo è un mondo certamente di elaborazione, certamente in cui cerchiamo magari di avere i canali di farli uscire o con tutta la difficoltà, ma quello che c'è in giro è quello che secondo me è quello che dovremmo cercare in qualche maniera di andare a scoprire. Io credo che ci sia in qualche modo e credo che anche utilizzando questa prospettiva di avere una nuova amministrazione con tutte le difficoltà e con tutti i problemi che ci hai raccontato, che quindi certamente sono, hanno la loro complessità e la loro drammaticità, ma dall'altra credo che uno degli obiettivi che bisognerebbe porsi è di evitare che ci sia insomma un ceto politico più o meno bravo, più o meno di sinistra o altro, ma che però è altra cosa dalla stragrande maggioranza delle persone che vive altro, vive la crisi economica o vive nel proprio quartiere e dove, che punto d'aggregazione ha? L'oratorio, quando va bene, altrimenti le persone, quartieri rimangono per quelle che sono, dormitori, posti dove non c'è per forza che va l'individualismo e altro, perché poi questo è il messaggio di concorrenza che viene dato, ma poi ognuno nella propria vita di tutti i giorni c'ha questa cosa. Non so quanto si sia, facciamo anche un ultimo esempio per dire, perché io sento questo problema in maniera radicale. Battaglia importante, il cinema Gloria, ma anche lì sta in un quartiere assolutamente popolare, quel cinema lì. Ma c'è apre un posto da proteggere, da rilanciare, da fare, ma quanto è vissuto dal quartiere, di quel quartiere lì? Quanti abitanti di Rebbio ci vanno, lo considerano un posto loro? Io questo sono, credo che sia lo stesso tema di quell'altro, cioè del fatto che noi abbiamo la necessità di fare battaglie, di mettere lì, di salvaguardare e rilanciare posti come quello, ma dall'altra riconnettere, porsi questa cosa di non lasciare che si allarghi enormemente, perché la crisi economica appunto è tutta tanto che risolta, e dalla crisi economica. Adesso la destra sembra allo stato, ma non so se saranno tra, potrebbero tranquillamente riconnettersi, non è così grave, non possiamo. Oggi sembra così che l'unica strada sia il nuovo. Io non darei per scontato, se appunto, ma questo anche perché storicamente è stato così, insomma, dalle crisi difficili si esce, molte volte si è usciti con spostamenti anche a destra, poi quando si deve contare, nei momenti che contano o altro, anche se oggi sembrano così lontani e sembra più a portata di mano la presa, perché credo che poi il vuoto di relazioni che c'è con le persone sia molto grosso. Non so, credo che questo sia uno dei temi che io ho voluto porre, insomma, che io personalmente sento e che credo che potrebbe interessare una discussione o un'iniziativa futura qui nel nostro territorio, nella nostra città, con questa collocazione che si è assunta. Io direi, se ci sono altri iscritti, un attimo do la parola a Tino. Ricordo a tutti che chiaramente come Sinistra Ecologia e Libertà noi stiamo facendo il tesseramento, su chi vuole tesserarsi a maggiore occasione. Io penso che, come diceva Luisa all'inizio della Celeste, questi momenti continueranno e per cui riprenderemo questa discussione in un altro ambito, cioè magari più avanti. Io vi ringrazio tutti. Allora, visto l'orario, ovviamente tenendo conto che gli argomenti trattati sono parecchi, ovviamente non ritratterò tutto, però intanto una premessa che mi sembra doverosa, che è quella che almeno io ci tengo sempre a dire. Noi stasera ho sentito molto interrogarsi sulla sinistra. Se la sinistra è in questa situazione, dobbiamo dirci che è colpa anche nostra, non è colpa solo degli altri. E se lo stato dell'arte nel nostro paese è in questi termini, non è che dobbiamo solo dare le colpe agli altri. Probabilmente, ovviamente, anzi probabilmente, certamente, noi abbiamo subito la nostra incapacità di elaborazione, di proposta, delle sconfitte in cui ovviamente il pensiero unico, cioè il liberismo a livello internazionale e nazionale è stato, come si usa dire, vincente. Quindi non è che dobbiamo fare le colpe agli altri. La seconda considerazione è, se è così, però non è che ci mettiamo a misurare di chi è prima la colpa. Cioè credo che ne abbiamo, ecco, io tendo a essere molto modesto su questo e assumermi ovviamente il mio pezzo di responsabilità. Detto questo, veniamo ad alcune considerazioni. Intanto dovremmo, se questo è il dato, dovremmo porci un problema che è non solo di casa, non solo di Como, della Lombardia o dell'Italia, è a livello un po' più generale. Ora, che tutti noi qui, in un modo o in un altro, abbiamo un'attenzione a che cosa succede, che cosa è successo in Francia, perché possa in qualche modo tentare di contrastare, come si dice, il pensiero unico liberista che è stato interpretato in modo organico dalla Merkel e Sarkozy, ma anche da molti, no? Anche da molti, e perché, come si dice, forse, no? A livello molto generale, sono successi dei fatti in cui noi abbiamo abdicato. Penso ad esempio sul terreno, per esempio, dal punto di vista sociale, economico-sociale, delle condizioni dei lavoratori, noi siamo qui a discutere, da una parte ci tolgono l'articolo 18, ci allungano l'età pensionabile, ci smantellano il contratto nazionale, perché a livello europeo ad esempio non si è riusciti, non siamo stati capaci, sindacato compreso, di fare una politica che era in grado di fissare dei livelli di diritti minimi in cui impediva al capitale di fare dumping sul terreno della competizione, sul terreno delle condizioni delle persone, in carne ed ossa. Questo è il dato. Quindi se noi non ragioniamo anche un po' più in là del nostro naso, noi pensiamo di risolvere i problemi, ma non ne risolviamo neanche uno, a mio avviso. Cioè, questo per dire, e questo comporta molte cose. Comporta ovviamente il fatto che in questo paese, a differenza di tutti gli altri paesi, non esiste, cioè, fra parentesi, lasciatemelo dire come, cioè, senza etichette, un partito socialista, cioè un'idea socialista, nel vero senso della parola, no? Non di quella valeriana di dicendo, che è stata in grado di contrastare. E il PD è stata l'interpretazione, ovviamente, continua di rincorrere il centro. Ora, faccio questo ragionamento perché dalle elezioni amministrative, ovviamente noi abbiamo visto la sconfitta, e io sono d'accordo con chi ha detto, adesso diceva Renato per ultimo, cioè non diamo per morto, cioè, la destra o di questo genere. Abbiamo visto la sconfitta ovviamente del centrodestra, cioè del spopolamento del PDL, più che il dimezzamento della Lega, cioè per tutte le cose che sappiamo, però abbiamo anche visto il fatto che il centro non esiste, eppure il PD continua a pensare che l'alleanza non va ricercata al centro. È così, cioè il problema è un continuo rincorso al centro, pure le elezioni amministrative, non in Lombardia, ma dappertutto, no? In tutta Italia ha dimostrato che quell'aggregato non esiste. Non esiste perché in qualche modo un pezzo è interpretato nel moderatismo, addirittura dentro, intrinsecamente, nel Partito Democratico. C'è un pezzo che è dentro lì, quindi io che non mi fa schifo. E noi, io l'ho scritto il giorno dopo, non come si dice, dei ballottaggi, ma compagni di Cello Sano, l'ho scritto il 7 sera, no? Noi, io sono contento, cioè credo come tutti, abbiamo avuto una grande vittoria elettorale. Basti pensare che in Lombardia si votava in 25 comuni, quelli sopra i 15.000 abitanti, poi in tanti altri, ma quelli sopra i 15.000 abitanti erano 25 comuni, 23 governati dal centro-destra e 2 dal centro-sinistra. Il risultato finale è 20 governati dal centro-sinistra, 2 da liste civiche, Cantù compreso, cioè liste civiche, e 3 dal centro-destra. Dal punto di vista del quadro politico è chiaramente altro che una debacle per il centrodestra. E se questo lo mettiamo insieme a quello che è successo l'anno scorso, dove è finita 16-3, no? Quando era 12-6, cioè, quindi la geografia politica, basti pensare che in Brianza, nella provincia di Monza e Brianza, l'anno scorso ho votato 4 comuni, quest'anno 4, erano tutti di centrodestra, tranne il mercato, ed è uscito 8 comuni governati dal centro-sinistra. Detto queste cose, per dirvi che io ho scritto che abbiamo avuto una grande vittoria elettorale, ma non politica. Ma non politica. Per le cose che ho sentito anche qui. Cioè, il livello di partecipazione, se io devo misurare, forse a Como, però poi ci arrivo su quella di Como, sul ragionamento, forse Como ha avuto un livello un po' di partecipazione maggiore, in parte Monza, però se io devo fare il raffronto con quello che abbiamo visto a Milano l'anno scorso, in cui il livello di la percezione del cambiamento, cioè la si sentiva discutendo con la gente prima di andare al voto, cioè si sentiva andando in giro quando stavi in strada, cioè te percepivi questa cosa, c'era un livello di partecipazione attiva, come si diceva prima, no? Molto elevato. E se la sinistra viene meno questo fatto, non può delegare a Magatti o a compagni che stanno in consiglio comunale di risolvere i problemi, perché se no li ammazziamo anche loro, perché devono fare i conti con le cose che ci ha spiegato Bruno, perché lui ci ha spiegato da 15 giorni, io è 2 anni che il mio sindaco, cioè non il mio sindaco, perché non abito a Lecco, però devo andare alle riunioni, compreso domani mattina, e in cui mi spiega che ha trovato una situazione che è molto peggiore di quello che si erano preventivati dopo 18 anni del governo della Lega. E, però se non c'è questa partecipazione attiva è difficile anche per loro affrontare il problema. Quindi questo è un dato. Allora il problema è e qui è determinato l'aggiunta, non è che poi scopro la pacata, il fatto del livello di partecipazione. C'è una crisi politica evidente, cioè la gente non crede più alla politica, non crede più ai politici, non crede. Anche la nascita di quel, in modo così diffuso delle liste civiche è perché non ci si crede più a chi normalmente sono i soggetti che fanno la politica. Questo è il dato fondamentale. Allora noi dobbiamo interrogarci su questo dato, e su questo ovviamente un pezzo Grillo ovviamente ci ha marciato su. E dentro il centro-sinistra non è vero che è andato tutto bene, o chi urla di più vince, perché anche questa roba non funziona, perché Di Pietro, l'Italia dei Valori, ma guardate anche a Como, prendete il dato del 2010 e quello del 2012, Di Pietro in Lombardia nel 2010, negli stessi comuni che hanno votato, questi 25 comuni, aveva preso 26.000 voti, ne ha presi 10.500, è chiaro, i voti assoluti, cioè non le percentuali, i voti assoluti sono 15.000 voti in meno. Quindi questo è un dato alla quale cioè, forse non basta solo urlare. È un altro dato: la sinistra, anche la, mi permetto di dire, anche la federazione della sinistra è premiata quando stava dentro un progetto di governo, certo con un'idea di trasformazione, perché io sto in un'idea di governo per cambiare, non per continuare una politica. E quando ho fatto questa cosa nessuno, cioè in questo caso, è stato penalizzato. Allora che cosa voglio dire? Allora bisogna intenderci che cosa vogliamo fare. Cioè io penso che se noi proponessimo alle persone l'opposizione per l'opposizione, le persone non gliene frega niente. Della testimonianza, del fatto di difendere in modo testimoniale, ti rispetta ma non ti premia, non ti dà. Allora il problema è qui la scommessa che noi abbiamo fatto come SEL è quella di voler giocare una partita anche fortemente radicale sui contenuti, ma misurandosi ovviamente sul governo come idea di trasformazione della società. A tutti i costi? No, non a tutti i costi, perché questo è un altro dato. Allora la discussione, a me, ho visto che poi si è un po' equilibrata, giustamente Celeste l'ha anche raddrizzata in modo chiaro, a Como, io penso che non è che a posteriori dobbiamo fare la discussione se è presente a sinistra oppure no. Il centro-sinistra si è presentato con quella formazione, a me pare che Paco Sel ha avuto un buon risultato, adesso rispetto a voi dirlo, però a me mi sento di dire che ha avuto un buon risultato, che non era per niente scontato. Questo è il dato fondamentale. Il problema è, capisco e condivido adesso come noi facciamo vivere questa cosa, come noi riusciamo a unificare delle soggettività diverse presenti dentro e fuori il Consiglio Comunale per far sì che queste cose pesino poi nella azione concreta. Questo è il dato fondamentale, ma non fare una discussione teorica se c'è o non c'è la sinistra. Per me c'è, punto. Cioè, devo dirlo, per me c'è, c'ero qui, cioè, ho partecipato alle elezioni, cioè, sarei proprio anche un po' masochista, cioè voglio dire che non ci sono, francamente, perché poi siamo bravi su fare tutte queste acquimie a sinistra, siamo bravissimi, voglio dire, allora direi, prendiamo dal punto di vista ovviamente in questa direzione, dopodiché io non mi sento né soddisfatto né appagato. Il problema è come faccio affronto il problema della partecipazione, cioè della partecipazione, e questo governo, se è un governo che segna un cambiamento, cioè quindi con tutte le gradualità del caso, guardate, io sono uno, ho fatto sindacalista per 30 anni, quindi ho fatto compromessi per sempre nella mia vita, voglio dire, quindi, però con un'idea chiara, bisogna cambiare, cioè quel modo lì non va bene. Ora, se questa è la linea, cioè diciamo è l'orizzonte, vale anche per il concetto nazionale. Ora, anche qui, se si è visto, non si è visto, intanto se purtroppo, se fosse un partito, no? Che abbia una struttura, cioè, diffusa, forse magari qualcosa di quello che dice potrebbe anche riuscire a trasmetterlo, però purtroppo è molto troppo, per, cioè, siamo ovviamente anche noi non presenti in Parlamento, senza un euro, senza sedi, senza pochi, diciamo dire che esistono dei gruppi dirigenti, dire un eufemismo, partire da sottoscritto, quindi siamo, come si dice, una cosa molto, molto leggera. Dopodiché, sul governo Monti, vorrei modestamente sottolineare che noi dal primo giorno abbiamo detto che non condividevamo. Il giorno stesso che abbiamo fatto l'intervento di presentazione del proprio programma alla Camera, noi abbiamo dato un giudizio negativo, abbiamo fatto un bollettino, un documento dicendo che non condividevamo, perché cambiavano i toni ma non cambiava la politica. E poi e pensiamo che dal punto di vista del principio chi ci ha portato a questa crisi non possa essere quello che ci tira fuori, cioè se il liberismo è quello che ci ha portato a questa crisi non può essere. Detto questo però bisogna costruire le condizioni, e le condizioni le costruisci con chi? Sputando in faccia quello che volente o nolente rappresenta il 25%, 30% di questa forza del paese, che è un pezzo del Partito Democratico, devi interloquire. E come fai a interloquire? Tenendo ovviamente la barra dritta sull'impostazione, sulla linea, su che cosa? Beh, insomma, io può darsi che non abbiamo intanto, non siamo mai mancati in alcune occasioni, né a Pomigliano, né a Mirafiori, cioè sulla questione di che cosa succedeva alla FIA, sul mondo del lavoro, sull'impostazione è sempre stata molto chiara l'impostazione. Sulle questioni ambientali abbiamo sostenuto una delle ragioni che noi critichiamo, ad esempio la questione dello sviluppo, tutti dicono che bisogna far ripartire la crescita, ma senza un soggetto sostenibile, quale crescita facciamo ripartire? Di che cosa parliamo? Cioè, voi vi ricordate ad esempio tutta la discussione, non si può dire di no a Marchionne perché ha detto che investe un certo numero di miliardi a Torino o roba di questo genere, ma per far che affronta il problema della mobilità, dell'inquinamento, quindi perché produci, cosa produci, cioè in questa direzione. Ora, queste critiche le abbiamo fatte ovviamente con le forze che siamo in grado di esprimere, quindi con tutta la nostra debolezza, ma e questa è un'impostazione che ci porta a dire oggi, e noi abbiamo sostenuto ad esempio, sosteniamo che bisogna costruire ovviamente un ragionamento di centrosinistra, ma che i partiti non sono sufficienti e che quindi bisogna attingere non tanto dalla società civile in modo astratto, ma se oggi riteniamo, faccio un esempio, che l'esperienza milanese piuttosto che quella di Napoli, piuttosto che quella di Genova, piuttosto che quella di Como, dove ci sono i soggetti partito ma anche soggetti altri di partecipazione, è un dato positivo. E come facciamo partecipare a questi soggetti, oltre alla questione per esempio dell'esperienza del movimento sindacale, la questione del comitato per l'acqua, cioè tutte queste robe, a un progetto, a mettere in campo un progetto alternativo. Perché la critica l'abbiamo sempre fatto come se, qual è? E che Monti non è che è caduto dal cielo, Monti ce la siamo bevuti, perché il giorno in cui Fini ha messo in crisi il centrodestra, cioè per citare delle date, e ha tolto la fiducia, cioè non c'era una proposta di centrosinistra. Purtroppo è quello che io vivo tra tutti i giorni in Lombardia. In Lombardia noi abbiamo un formigone che ovviamente è nella situazione in cui è, però lo dico io, cioè noi è da mesi che diciamo, costruiamo, cerchiamo di costruire iniziative anche cioè, fuori dal palazzo, cioè, abbiamo proposto all'inizio, facciamo iniziative in centro città per dare in là alla costruzione di un cantiere per l'alternativa in grado di costruire diciamo, quel progetto che il giorno in cui Formigoni, insomma, un giorno o l'altro, dopo pure anche lui, diciamo, torsi dalle scatole, siamo in grado di presentare una proposta, cosa che oggi non c'è. Io non la vedo. E non mi interessa discutere di primarie sulle persone, sapendo che le persone poi, perché se io faccio un progetto serio di sinistra o di centro trattino sinistra e poi ce n'è uno di destra che lo porta avanti, mi pare difficile, no? Quindi le persone hanno un rapporto tra le scelte. Ed è per questo Se il problema è tra Bersani e Renzi, in cui dice, Renzi dice, io non voglio mica, gliel'ho detto al mio partito alla riunione, io la vicenda di Palermo non voglio più sapere, perché non si può dire che Fernandelli è uno che è sbagliato sostenendo, poi però facciamo le primarie insieme a Fernandelli, perché se tu fai le primarie e tu alla fine ti vince, non è che dici che ho vinto quello che ho deciso io, non mi piace, vado da un'altra parte, come se magari partecipato alle primarie, se non ho vinto io non ci sto più. Beh, noi abbiamo perso, prima ancora che la politica, la destra, sì, abbiamo perso la credibilità nei confronti delle persone, che mi pare una cosa che abbiamo già perso troppe volte in anni passati, e la gente ce lo rifaccia ancora, i nostri compagni e compagne del centro e della sinistra, ci rifacciano, cioè che non vi mettiamo su perché litigate, cioè ce lo ricordano ancora. Allora, questo è lo stato dell'arte. Allora, noi diciamo, beh, il PD cioè non vuol fare il congresso al suo interno, faccia il congresso, poi ci dice, però la domanda è, ma noi possiamo far finta che di quel pezzo lì non ci interessa niente? Adesso non parliamo, cioè parliamoci chiaro, se vogliamo pensare che dobbiamo mettere in campo una proposta di trasformazione per un governo, e dobbiamo essere in grado di creare qualche contraddizione. È chiaro che come faccio ad andare d'accordo con un casino? Cioè, se devo discutere e finisco. Cioè, noi ad esempio abbiamo lanciato adesso 3 iniziative di raccolta firme, 2 come SEL e 1 in, diciamo, con altri soggetti, perché non è una roba che parte da sé, però quella della raccolta firme sui diritti civili, il primo firmatario è Alessandro Zanche, e tra le prime Monica Cerutti, che è, diciamo, responsabile dei diritti civili di SEL a livello nazionale, firmato, cioè, raccoglieremo le firme su questa roba. Abbiamo depositato la proposta di legge sul salario minimo garantito a livello nazionale e l'abbiamo depositata a livello regionale, questa come SEL. È un po' difficile pensare ad andare d'accordo con Casini, eh. Sui diritti civili avete presente che cosa si può, cioè come si fa? È complicato. Quindi questo mi pare, ma anche sul reddito minimo, compreso il fatto che Casini, giustamente dal suo punto di vista, dice Monti e poi Monti, cioè poi se non si chiama Monti si chiama Montezemolo, va bene ugualmente, cioè nel senso, il problema è quella lì, il percorso. Beh, noi non siamo d'accordo, forse lo gridiamo troppo poco, dovremmo gridarlo di più, non lo so, però questa è la data. Perché? Perché pensiamo che in questa situazione in cui c'è stata la crisi, non è vero che tutti hanno pagato, sono andati in crisi, perché c'è una parte che ci ha guadagnato un sacco di soldi. Allora, la parola uguaglianza è un problema centrale. Bisogna che qualcuno paghi, e non è vero che si deve far pagare, perché l'avete detto voi, l'IMU, a parte la tassa davvero, diciamo, iniqua, in cui addirittura sui pannelli solari si può pagare l'IMU, perché poi ho scoperto che persino su questo. Però il dato, ad esempio, io ho litigato col sindaco di Lecco e ha detto che noi della sinistra siamo irresponsabili, perché abbiamo proposto il fatto di fare 3 fasce sull'IRPEF, no? Alzando a parità di gettito, no? Ridurre per quelli sotto i 15.000, cioè azzerare quella sotto ai 15.000 euro, farla pagare a quelli sopra i 35.000, 40.000, adesso stabiliamo quanti, e l'IMU di fare, cioè le fasce di su questo, che eravamo irresponsabili, litigati, pure il governo di centro-sinistra. Cioè voglio dire, non è che bisogna fare delle scelte, cioè ovviamente bisogna fare delle scelte su chi paga, perché non è vero che non ci sono i soldi in questo paese. La questione è patrimoniale, ma la questione, ad esempio, degli F-35, quanto ci costano? Oppure, cioè, parliamoci chiaro, in questo paese magari ti dice io non so dove andare a prendere i soldi per fare la bonifica, però in questo cazzo di paese, scusate il termine, si parla sempre di grandi opere, la più grande opera è mettere in sicurezza il paese, però vorrebbe dire mettere in discussione il paese di bilancio, cosa che noi abbiamo fatto una battaglia contraria su questa cosa. È chiaro, cioè, bisogna riaprire questo ragionamento, dopodiché Vedi Arini, io sono andato all'assemblea della Fion e il fatto stesso che alla Fion, all'assemblea della Fion ci sia venuto Bersani, che non era per niente scontato, che non era, e secondo me ha aiutato la Fion il fatto che c'era lì tutta compresa. E Bersani non ha mica detto quello che penso io, perché io sono. Ha detto però alcune cose, che ad esempio è giusto modificare la legge, cioè l'accordo del 28 di giugno sull'articolo 8. È giusto mettere in discussione non tutta la riforma, ad esempio, delle pensioni, ma un dato fondamentale. Si è accorto che questo genio della Fornero, no, ha fatto una cosa nella quale i giovani non solo vanno in pensione a 70 anni, ma quando vanno in pensione hanno ancora il 42%, perché essendo tutto, cioè, contributivo e quindi di carattere diciamo assicurativo, bisogna pensare di far subentrare un pezzo di diciamo ripartizione per poter garantire alle future generazioni, c'è il tempo di farlo, c'è per, se si vuole, c'è questa roba qua, bisogna recuperare alcune strutture, bisogna fare una legge sulla democrazia sindacale. Poi lui ha detto che sull'articolo 18 non voleva toccarlo, però l'ha toccato agli altri, e io non sono d'accordo, però cosa faccio? Litigo sull'articolo 18 e sputo anche sulle altre cose, oppure se devo fare il compromesso devo cercare di spostare in avanti? Io penso, in politica, come in tutte le cose, si deve avere un'idea di come porti avanti, però poi devi cogliere, no, anche quelle disponibilità per farle, questo è un passo in avanti. Se no noi rimaniamo là con la bandierina, loro fanno le cose, noi protestiamo sempre di meno, perché poi alla fine vedo anch'io come vanno poi le iniziative e la partecipazione alla mobilitazione, non spostiamo assolutamente niente e la gente si arrabbia sempre di più, perché la gente, se non porta a casa i risultati, non fa le lotte in modo astratto, le lotte anche più come si dice radicali riescono se hanno l'obiettivo di un risultato, se sono fatte fine a se stesse alla fine muoiono, con una inversione poi delle persone contro addirittura chi le ha promosse. Questa è la mia esperienza di 35 anni di sindacalista, della Fion per la verità, quindi so benissimo che cosa succede in queste robe qua. Quindi questo è il dato. Allora noi, ho finito, facciamo l'ultima cosa, venendo sabato, per quanto ci riguarda, come previo Serra Lombardia, facciamo un'assemblea degli eletti, no? Degli eletti. Facciamo un'assemblea degli amministratori e chiediamo a una decina di persone, per razionalizzare la discussione, di fare degli interventi che ci danno anche degli spunti, delle idee, per avere qualche proposta e qualche idea progettuale guardando in avanti, non solo con vino di casa, ma in grado di guardare avanti. Quindi, voglio dire, quello che diciamo a Gatti, cioè, quando parla del leader sociale, è chiaro che parte dalla contraddizione che lui vive. Il problema però, quando lui, io almeno ho cercato di capire, quando lui pone quel problema lì, dovevo vedere cosa succede in questo paese su quel settore lì, ai minori e ai dicendo. Se riusciamo a tirare fuori qualche idea alternativa, allora facciamo un passo in avanti, se no altrimenti noi, come si dice, ci parliamo tante volte addosso, non ci parliamo, ci diciamo tutti che abbiamo ragione, ma non facciamo un passo in avanti. Quindi io vedo bene questo ragionamento, ognuno non deve sentirsi spersonale, cioè nessuno deve rinunciare a qualcosa, cioè a se stesso, però con lo spirito che nessuno di noi ha la verità in tasca, cioè, e questa è la riapertura della partita. Io quando penso di costruire serie, non è un fine, perché se dovrei costruire un partito che quando sono al 6%, perché sono 5%, sono presente in Parlamento, ho trovato il risultato, no, io vorrei una sinistra che abbia minimo due cifre, cioè per poter contare nel paese. Quindi vedete che sono proprio di quelli che pensano che bisogna riaprirla davvero la partita, quindi essere proprio a disposizione per riaprire questa partita, e vi chiedo di dare questo contributo, ovviamente dandoci, cioè aiutandoci tutti insieme per andare in questa direzione. Va bene, io direi possiamo concludere con la promessa che avremo altre occasioni di vederci.